Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, caro Parenzo, io qua. L'unica cosa che mi dispiace è dell'ennesima mobilitazione di qualche associazione di signori animalisti, vegani o pseudotali, è che la polizia si occupa di noi. Cioè, questo veramente mi dispiace. Sì. Invece di occuparsi di cose più serie, invece di stare appresso ai terroristi. Intanto li ringraziamo, questi poliziotti. Assolutamente. Della Digos, che sono... Li ringraziamo, ma lasciamo perdere i poliziotti. Sono venuto a Milano apposta per te, per farti da scudo umano. E ho attraversato questa folla. Queste 10 persone, 10 no, vegani. No, che 10? Sono 60-70. Sì, adesso sono diventati 60-70. E abbiamo fatto questo summit con la questura, praticamente. Costretti, sì, a la cosa mi dispiace incontro. Perché invece di occuparsi, ripeto, di cose molto più importanti rispetto a un movimento comunque di fondamentalismo che sta crescendo, si devono occupare della sicurezza del sottoscritto. Della tutela dei salami, possiamo dire. Sì, non sono un salame io, però, scusami. No, ho detto dei salami io, che ma se oggi non c'è sono una notizia fondamentale da dare. C'è una notizia fondamentale. Qual la è la notizia che fondamentale? Ci rovinerà. Rovinerà. Cioè, il nuovo presidente della Confindustria, al quale facciamo i migliori auguri di buon lavoro, signor e seguiremo. Boccia, sì. Signor Boccia, non quello del PD. Signor Boccia, nuovo presidente della Confindustria. No, non seguiremo niente. Sì, noi. Passo dopo passo, la sua strepitosa. Stai zitto, guida della questa azienda straordinaria. Bene, però Boccia è vegano. No, è tutto finito. Non è vero. Per lui è dai. Tutto finito. No, è vegano, dai. Io infatti da sempre sono vegano. Io sto, dai, sì, io mangio il risotto con le erbette, ad esempio, ratatouille di verdure, solo verdure. Boccia è vegano. Ma a parte che non è vero, hai detto che mangiavi l'agnello fino a 2 giorni fa. Non ho mai mangiato carne. No, scusa, carne kasher. Kasher, però io sono vegano. Non ho mai trovato. Marco, trova una sola mia dichiarazione in cui io ho mangiato carne. Ma è una notizia falsa. Dove l'hai trovata? Boccia è notizia? Vegano. Ma questa è la notizia del giorno, questa qua. Ma so le mie fonti. Ma sei sicuro? È vegano. No, Boccia, dai, è vegano. Boccia è vegano. Questo potrebbe creare un problemino alla linea editoriale che hai dato incautamente a questa trasmissione. Che da oggi verrà chiamata la carota, non più la zanzara, non lo sai. Verrà chiamata la carota. Ma dove l'hai trovata? La carota su Radio 24 verrà chiamata, non più la zanzara, è evidente. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Eccone un altro. Allora, c'è uno striscione appeso qua fuori, cari amici. Bravo. Popolo della zanzara. Ora uno ha il diritto di fare tutte le proteste del mondo, per carità. Tutte le proteste del mondo, finché non rompe i coglioni, finché le proteste sono autorizzate, finché non tenta di aggredire gli altri, eccetera, eccetera. Potete dire quello che volete, questa è la trasmissione più aperta del mondo. Facciamo parlare veramente tutti, caro David. Sì. Veramente tutti. Troppi, no, tutti, dire. Tutti, ed è giusto così. Abbiamo fatto parlare chiunque. Però abbiamo il diritto di prendere per il culo chiunque allo stesso modo. C'è uno striscione però che mi fa incazzare. Bravo, a bestia, come direbbe il mio amico Ruffini. Mi fa veramente incazzare a bestia. È uno striscione che hanno esposto questi deficienti, perché chi espone questo striscione è un deficiente, citando un signore, ma non me ne frega niente, cioè, Nobel per la letteratura, paragonando l'uccisione degli animali ai lager nazisti, il trattamento che subiscono gli animali, a quello che hanno subito gli ebrei con il nazismo. E io non sono ebreo. Parenzo è incazzato quando nero, da quando nero, ha vinto questo nero perché ho visto striscione. Anche il filo spinato che no sono veramente perché hanno messo sullo striscione hanno messo addirittura il filo spinato allora togliano di Auschwitz. Questo striscione si vergognino subito, vergogna subito, vergogna subito. Vergogna togliete lo striscione togliete subito questo striscione infame maledetti toglietelo. Paragonare i lager nazisti ai posti dove vengono uccisi gli agnelli e gli animali. Vergogna, vergogna, vergogna! Vergognatevi! Vergognatevi! Vabbè, tanto per iniziare in maniera soft, sì, moderata, sì, insomma. Però sono cose per che fanno incazzare sul serio. Di pace. No, però no, adesso, al di là dell'ironia. No, è vero, no, al di là dell'ironia. Adesso è una cosa che cioè, fa incazzare. Anche il commissario uno del può fare tutte le mani. Commissario del popolo che è stato mediatore, eh? Il Kofi sì, Annan di Radio 24 che è il signor Barisoni ragazzi, che è qua uno, che ripeto, giustamente ha paura per la tua vita perché ti vuole bene Barisoni, questo bisogna dirlo, perché Barisoni ti vuole bene, ha paura per la tua vita e dice giustamente calma, keep calm ragazzi, ciò keep che calm. I nazisti hanno fatto agli ebrei, no è pazzesco questo, gli umani lo stanno facendo agli animali, allora con se, il filo se qualcuno di voi Auschwitz. Vuole avere una dignità di parola, una dignità di parola, togliete quello striscione subito. Infame maledetto. Poi ne parliamo, dai. Altrimenti siete come questo signore qui che ieri sera ho incrociato a Matrix, eravamo lontani e probabilmente mi avrebbe strozzato, chi ucciso è? Con le sue mani. Signor Mocardo. Ah, come no, ex che tra l'altro ex di Forza Nuova, sì, super sì, fascista, sì. Super nazista. È un DJ, che è DJ Mocardo, si chiama candidato sindaco. Vabbè, ma non mi interessa, tu ognuno, ha, beh, ognuno fa quello che vuole. Beh, pensa quello uno che ex nazista. No, signor Mocardo di 100% animalisti, il quale Mocardo... Oltre a essere piuttosto obeso, ciccione, ma questo non è un delitto. Però beh, mi dicono che i vegani di solito no, sono invece. Dipende. Bah, sarà se che la dieta vegana forse se non produce. Spinaci tutto il giorno, forse. Non lo so. Vabbè, comunque è piuttosto grosso, piuttosto grosso. Dunque, la dieta vegana, evidentemente, non produce effetti da questo punto di vista. Signor Mocavero ha detto che ha un orgasmo quando muore un cacciatore. No. Ah, è sì. Vero, sì, ho sentito ieri. Un orgasmo quando muore un cacciatore. È vero che lei dice sì, quando muore sì. Un cacciatore io sono sì. Felice? Io non sono felice, io proprio godo che è diverso, capisce? Ho quasi un orgasmo. No, però non ridete almeno in studio, perché godere di una morte? No, godere di una morte, godo di un cacciatore che è diverso, che è uno che a suo tempo toglie la vita ad altri esseri senzienti. Questa è la differenza. Il cacciatore non merita rispetto da morto. Cioè, una persona che uccide per diletto, per me non merita di essere prima di tutto rispettato, né da vivo e né da morto. Oh, poi c'era una signorina, sempre ieri sera a Matrix, che veniva presentata come cantatrice. A me fanno impazzire queste cose. Perché non mettono cantante e attrice? Cantatrice. Mettono insieme cantatrice. Sì. Uno sì, un si curioso. Può pure chiedere, ma che cazzo di lavoro è cantatrice? Vabbè, no, canta in teoria. Però, e recita. Cantante e attrice insieme. Ma signora... diceva delle cose assurde la signora. La signora ieri. Rossella Seno, bellissima donna peraltro, capelli sì. Rossi. Sì, vabbè, d'accordo. Meravigliosa, bellissima, devo dire molto bella. Signora Rossella Seno, che dice, aveva di fronte un macellaio. Un signor macellaio che aveva l'unico, come dire, l'unica colpa. Di fare il suo mestiere sì. da una vita, una tradizione centenaria. Ma scherzi. Ci sono un sacco di macellai in Italia che fanno umilmente il loro ma lavoro. Ha ricordato e che sono messi ma... al pubblico ludibrio da questi ma... pazzi, da questi malati di mente. Ma tu lo capisci? No, no. Cioè, allora, signora Rossella Seno, non mi voglio incazzare perché oggi è una giornata lunga. Allora, signora Rossella Seno, che dice un macellaio è un assassino, ma così con quella voce dolce, con quella faccia da grandissima, devo dire da gran figa, è una gran figa. Vabbè, però ho capito, questo l'unica dettaglio. Sua cosa è una gran figa. Ho capito, è una gran figa, un dettaglio sarebbe esiste, ma è vero. È una gran figa. Rispetto la al racconto è un sì, dettaglio. Però, quando lo dice una persona così bella, no? Anche con quella voce ti così. Ti dispiace, è... ho capito che ti no, dispiace. Un po' mi dispiace, un po' perde quasi, se lo dice Mocavero dice, vabbè, la faccia sì, brutta, con ciccio sì. Grosso, Mocavero. Ma certo, proprio schifoso, ma per le idee. Anche schifo, per me. Anche dal punto di vista. Per le idee, per me, non fisicamente. Anche quello non è bellissimo, siamo. Però comunque chi se ne frega. Il suo problema non è quella roba lì. No, fidati, no. Il suo problema però non è lo dice sia Seno con quella voce, mi dà anche un po' mi dispiace, so. Capito? Mi dispiace, so, mi dispiace. Lei dice che è come un assassino, ma è questo. Ma è un assassino, cioè è un assassino, è un essere vivente, lui commette degli assassini, non è che ci giriamo prima intorno. Della trasmissione Non è che ci giriamo intorno, commette degli assassini, un assassino, il macellaio, amico mio. No, il macellaio tratta carne morta, ma, peraltro. Ma perché non vanno ad assassinare? Se lo considerano un assassino, questi signori qui, anche quelli che sono qua sotto, no? Anche i signori, perché non hanno il coraggio di andare a, come diceva Montanieri, di sparare in testa a un produttore? No, di... ma non diamo ma dovrebbero avere i coglioni per sparare in testa ad Amadori, no, povero Amadori, tutti i produttori, adesso voglio elencare tutti, sparategli in testa, come no, diceva Montanieri. Povero, se avete coraggio, volete fare i terroristi fino in fondo, se avete i coglioni, sparate in testa. Io non tocco nessuno. E quelli che dicono, per l'ennesima volta, quelli che dicono sei scappato sono degli imbecilli e dei frustrati, perché io non metto le mani addosso a nessuno ed evito il contatto fisico finché posso. Chiaro? Chiaro? Chiaro? Sentiamo ancora. Poi ha paragonato, Parenzo, adesso ti devi incazzare anche tu, però, perché non mi posso incazzare. Ho seguito tutto io ieri sera. No, il macellaio come un capo nazista. Ma sì, no, ma no, macellaio come una un capo nazista. Folle. Sebbe la signora Seno, no? Sì, ma con quella voce così mi dispiace, capito? Che è veramente una gran figa, una mi dispiace. Una stupidaggine eclatante. Mi fa orrore. Un macellaio le fa orrore? Sì, mi fa orrore, perché comunque un retaggio... Cioè, lei è come un capo nazista? Ma sì. No, esageriamo. Sì. Non si pongono sì. il problema sì, del dolore. Sì, ma sai perché? Perché come un capo di un lager. Allora, no, scusi, noi... però, come il capo di un lager, Rossella. Beh sì, perché comunque questa... Ma non lo dica così, non è una cosa che si può dire così. Ma è una vergogna come un capo nazista. Ma di che stiamo parlando? Dai, su. Allora. È bello che queste cose passano così, cioè... passano, uno dice un capo nazista, e quando qualcuno dice delle boiate degli ascoltatori qui a Radio 24, giustamente ci sei tu, più spesso tu rispetto a quanto possa fare io, che dice una vergogna, uno scandalo, uno schifo, lì un po' sì, ma è un'ideologia, hai detto bene tu, ideologia, è una follia. Allora, per deviare un attimo, poi c'è già... abbiamo mandato un ostaggio giù, abbiamo mandato sì, persone in ostaggio. Sì, ottimo. No, per punirlo dal fatto che l'altra volta ha aperto la porta. Sì, bravo, no? Mercù. Signor Mercù, credo che sia collegato con qualcuno, però aspetta, un momento. Un momento, perché non ho ancora deciso quanto spazio voglio dare a questi qua. Rimuovete lo striscione vergognoso, e vergognatevi di averlo messo. A proposito di Islam, caro Parenzo, perché insomma tu dici, no? Ma pensavo parlare del ministro Guidi. Ah, no, leggi questa notizia che è molto importante. Estrazione sì. di petrolio. La ministra Guidi intercettata. Domani passa l'emendamento. La signora ministra era al telefono con il suo compagno o fidanzato, non so chi sia, e mostra un palesissimo grande conflitto di interessi, tant'è che sta scoppiando un casino al governo, vedrai. Questa cioè, è secondo la te si deve dimettere, no? Si deve dimettere. Ieri doveva dimettersi per questa cosa, ma scherziamo. Ma ragazzi, ma si parlava... Per 20 anni abbiamo parlato, io per primo, del conflitto di interessi di Berlusconi, e ora che c'è un ministro che, a quanto dice lei al telefono, avrebbe fatto passare un emendamento per fare un favore al suo compagno... No, non sappiamo se è un favore, lo ha informato comunque, Allora, il compagno ha un'azienda interessata di questa cosa? Sì. C'è un emendamento, c'è una telefonata in cui dice domani passa l'emendamento? Via, subito. Non so né leggere né scrivere, però... Su questa cosa qui, se le cose stanno così, se ti devo dare così ragione. Se stanno così come ci dicono oggi i giornali... Ti devo dare ragione. Grazie, Guidi, del lavoro se svolto. C'è, arrivederci a casa. No, grazie molte, per il lavoro svolto fino ad oggi. Hai visto qualcosa? Non so niente io, ho detto grazie del lavoro. Quale torni lavoro? Alle sue aziende lavoro, di famiglia. C'è stato un lavoro? No, dico grazie. Ma magari sì, non lo sappiamo. Ma non lo io dico grazie, torni pure alle sue aziende di famiglia. Grazie anche a Renzi, ovviamente. Traffico. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. Traffico. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. Allora, abbiamo mandato un ostaggio sotto Radio 24, dove si sono radunate alcune associazioni che mi contestano, cosa assolutamente legittima, soprattutto perché hanno chiesto l'autorizzazione. Poi non so che cazzo fanno alla sera di pomeriggio a Milano in un giorno feriale, ma ognuno della vita fa quello che vuole. L'ostaggio è il signor Mercù. Sì, che è un carnivoro, diciamolo agli amici che sono sotto. E gli amici che sono sotto possono tranquillamente dire che è un assassino, eccetera. Mangia carne proprio a più non posso, signor Mercù. Sì, sì. Chi c'è, Andro? Che succede? Perché io non ho potuto vedere, Andro? Allora, siamo davanti al Sole 24 Ore della Paradio 24. In questo momento è in atto proprio la manifestazione. Sì, vabbè, ma passaci qualcuno, la manifestazione allora, la sappiamo, passaci. Esatto, abbiamo Valerio Vassallo, oh, vicepresidente Valerio Vassallo del Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente. Vabbè, Vassallo, che vuoi? Dimmi. Vassallo, pronto? Dimmi, che vuoi, Vassallo? Oh, Cruciani, finalmente ci sentiamo. Ma chi sei? Volta. Non ho capito, chi sei, Vassallo? Io, non Vassallo ti... Valerio, Cruciani, no. Mi conosci no, benissimo. No, non ti conosco, chi sei? Che fai nella vita? Sono il nazi vegano che hai chiamato a rompere le palle per gli astici, per i conigli. Per gli astici, per i conigli? Non sì. Ti sento bene perché c'è per gli astici no? E i conigli, sì. Fai spegnere i microfoni. Ascolta. Che vuoi, Vassallo, che vuoi? Allora, Cruciani, sì, allora, se sei, io ti voglio solo dire, ma se sei un uomo... Se ma sei fai un uomo. Una di- sì, se sei un uomo, fai una diretta, non ti nascondere. Faccio dietro. Che cosa? Che cosa faccio? Devi fare una diretta. Ah, cioè, tu mi dici, tu mi dici che sì. Cosa devo fare io. Cioè, tu io mi dici dico, se sei un uomo, devi fare una io diretta. Ma tu chi tu sei per dirmi cosa devo fare? Io sono quello lì che ti dice no, ma che l'ho devi smetterla di sì. Nasconderti dietro. Di nasconderti tagli, dietro? E che cosa sì, dovrei fare? Scusami. Perché tu intervisti, tagli a tuo piacimento quello no, che vuoi. No, tu sei qui, puoi dire quello che vuoi, non taglio niente, dimmi. Ma cosa dici, Cruciani? Dimmi, perché dimmi. Abbiamo l'altra volta che ci hai intervistato. Senti, Vassallo, sono cose che non interessano nessuno. Dimmi che cosa sì. Sei venuto a fare stasera io, qua sotto. Niente, semplicemente qua sotto te ne devi andare dai microfoni perché sei un danno. Ma me ne devo andare dai microfoni. E rompi le palle alla gente. Rompo le palle. Capito, ma sono degli argomenti, sono degli argomenti molto seri. Molto e noi seri. Fino a che non te ne andrai da questa trasmissione, dovremo a romperti le balle. Mettere una tenda, il Sole 24 Ore sceglie o te. Devi mettere una tenda, però. No, la tenda, Cruciani, devi mettere una tenda. Capito, no, Cruciani, sono Parenzo, ascolta. Sono Parenzo. Noi salame. Possiamo venire a rompere le palle davanti a casa, sul posto di lavoro, sì. Arrivare al punto di denunciarci per stalkeraggio. Guarda, hai sono terrorizzato, abbiamo guarda. Fatto, sono terrorizzato. Fatto chiudere aziende, figurati se non facciamo mandare via te. Che cosa hai fatto chiudere tu aziende? Dunque, aziende? E dunque il tuo obiettivo aziende. È mandarmi via. Il tuo obiettivo sì, è mandarmi sì, via. Io te ne devi andare perché i microfoni non sono fatti per persone come te. Tu sei uno specista, ti devi vergognare. Cosa sono specista? Cerchiamo di spiegarlo. Uno specista. Sì, ma spieghiamolo alle persone che stanno ascoltando. Sì, spiega, spiega. Cruciani, fenomeno, sai che cos'è lo specista? No, spiegalo, io lo so, ma spiegalo, vai. Ok. Sai che, allora, cosa c'entra il nazismo con no, ma spiegalo. Spiegami. Senti, fai togliere intanto quello, fai togliere quello striscione vergognoso che avete messo paragonando quello. I campi di concentramento all'uccisione degli animali. Cruciani, togli quello striscione e vergognati. Cruciani, togli quello striscione e vergognati. Cruciani, la vergogna sei te e l'Italia si sta facendo una figura di merda. Sì, sì, vabbè, vabbè, allora mi vuoi cacciare, mi vuoi cacciare. Poi, no, non ti poi... voglio cacciare, te ne devi andare, ti devi sì, dimettere. Mi devo dimettere. Poi, le persone che meritano devono fare il tuo lavoro. Persone come te persone devono andare che meritano. A spazzare la strada. Spazzare la strada. Stai bene. Parlando con un ignorante come te. Siamo due ignoranti. Sì. Tra i due c'è magari qualcuno ma che ha ragione. Ma scusi professore, ma lei quindi per dire queste genialate è venuto fino a qua sotto. Io sono un ignorante. E chi se ne lei per dire adesso? Queste robe è venuto fino a qua sotto. Con io, questo sì, gruppo di sedicenti. Cioè per dire queste puttanate è venuto giusto, fino a qua. È venuto fino a qua. Tu sei un codardo, sei uno stalker, continui a telefonare. Io telefono, tu puoi tranquillamente abbassare il telefono. Minacciare. Noi abbiamo registrato chi ha minacciato? Tutte le telefonate. Ma chi ha minacciato? Perché tu vuoi crearti odio semplicemente. Vabbè. Senti, parla in maniera seria. Hai non ho capito che cosa qual chiamato, è. Lascia Cruciani, perdere, qual è l'argomento? Le ragazze, butto giù il telefono. Che... Sei un pedofilo, sì. Sei un maniaco sessuale. Cosa sono un pedofilo? Sei un frustrato, sì. Sono un pedofilo, ti denuncio. Ti denuncio. Parli di Pacciani, ma ti rendi conto? Ma questo lo denuncio, dai. Questo lo denuncio, dai. Questo lo denuncio, dai. Questo lo denuncio, dai. Ma denuncia quello che vuoi. Sì, no, no, mi hai dato del pedofilo di Pacciani. Ti denuncio subito. Sì, mandalo a fare in culo questo che abbassa il telefono a questo cretino. Basta, basta, basta, basta. Basta, basta, basta, basta. Ma dai. Allora, Davide da Bologna, vai Davide, vai. Vai Davide. Cioè, questi qua hanno esposto uno striscione paragonando i nazisti i nazisti, cioè ai carnivori. Cioè, i nazisti e i carnivori. I nazisti mangia... sarebbero come i carnivori. Non solo, gli questo, ebrei come questo gli animali viene che chiamato vengono. A spiegare la sua posizione qui, perché noi siamo persone aperte a tutte, mi dà del pedofilo. Cioè, voi capite a che livello siamo arrivati, sì? Mi dà del pedofilo, questo coglione, questo imbecille, mi dà del pedofilo, chiaro? E io dovrei parlare con gente simile? Dovrei parlare con gente simile, con uno come Vassallo che mi dà del pedofilo? Valerio Vassallo, va. Poveraccio. Davide, vai. Grande Cruciani. Sì. Ho visto ieri sera Matrix con la fascista al collo. Davide, parla dalla, non dalla, dall'auricolare. Dai, forza, Davide. No, no, nessun auricolare, niente di una voce. Vabbè, dai, non sento. Antonio dalla provincia di Taranto, dai. Via. Antonio? Pronto? Dimmi. Pronto, sono io. Dimmi. Ciao Cruciani, io ti ascolto sempre. Mi piace questa discussione che stai facendo. Solo che non sono in argomento, ne devo prenderne un'altra. Perché io sono Antonio, puoi dire quello che vuoi. La conosci questa trasmissione? Puoi dire quello che ti pare. Basta che non fai le premesse, le cose. Fai quello che... Di quello che ti pare, quello che senti, quello che ti viene da dentro. Mi stava piacendo questa trasmissione che stai facendo su quelli che stanno fuori. Va bene. Adesso dico la mia. Ma noi siamo così aperti. Tu lo capisci, la so, siamo così aperti. Io ti ascolto sempre. Noi facciamo parlare tu, ma veramente tutti, forse oltre il necessario. Ecco, esatto, bravo. Oltre il necessario. Esatto. Qualcuno ci accusa che facendo così lo odia, cioè, ma semplicemente perché almeno io mi diverto tantissimo a lasciar parlare tutti. Me ne frego, io non ho mai visto le curve di ascolto, me ne fotto totalmente di queste cose. Detto questo, amico mio, se uno mi dà del pedofilo, va a finire in tribunale. In tribunale. Chiaro? Che cosa mi vuoi dire, Antonio? Dimmi. Niente, io ieri mi sono incazzato ancora di più, adesso mi sono calmato un po'. Però ieri ho visto sul computer che questi migranti che ci hanno strappato la bandiera, lì quelli che stanno ospitati giù a Veneto... Guarda, se qualcuno ha strappato una bandiera dell'Italia o qualsiasi altra bandiera commettendo violazione di domicilio o un altro reato deve essere denunciato perché erano incazzati per il menù. Lo facevano anche i leghisti di vilipendere il tricolore e di strappare la bandiera. Lì c'era un'altra cosa però, l'idea che rifiutavano l'Italia. Ma è diversa la cosa. Perché fatto dai leghisti che dicevano col tricolore pulisciti, ma come? Ricordo perfettamente quando Umberto Bossi, leader della Lega, stai paragonando meglio i migranti. Ma assolutamente, meglio i migranti, che hanno una ragione per odiare l'Italia, perché non li accogli bene. Ma in quel caso no. Piuttosto che i cittadini veneti pseudo indipendentisti che insultano il tricolore. Non gli andava bene il menù. Non gli andava bene il menù in questo caso. Quello è il riso in bianco. Ma perché? Quale uno che ha fatto un viaggio in mare con una carretta in mare, il riso in bianco. Il riso in ragazzi, bianco. Dobbiamo chiudere. Ci sentiamo tra 20 minuti, a meno che non succeda qualcosa, ma credo che non succederà nulla. Infami, togliete lo striscione e quel tizio che mi ha dato il pedofilo verrà portato in tribunale immediatamente. Infame maledetto. Cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top. Recupera. Ha vinto. Straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti, ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta La Zanzara. Punta data del 24 marzo. Parenzo, tutti i giorni ci vorrebbe un Riccardo da Roma a farti stare zitto. Te ne accantate, sai? Guarda, io sono di sinistra e tu mi sta su coglioni. Ma guarda, deve essere grave. È grave. Te, tu sei la vergogna di quelli di sinistra, Maremma Maiala. Avresti dovuto tirare fuori i coglioni, invece no, tu sei scappato. Ma dove è scappato? Al limite sono io che sono scappato al pestaggio animalista. Stavo, no? A casa mia. Allora, vogliamo fare una piccola... Reso conto. Un momento. Allora, cosa è successo? Parenzo, tu eri presente a questo colloquio che c'è stato? Colloquio. Qualcuno era molto esagitato e l'hanno dovuto trattenere i loro stessi, come si dice, giannizzeri. Sì, come che voleva venirmi addosso. I loro stessi per bravi. Dire, dicono che il veganesimo porta come tranquillità, questi, posso testimoniare, sono incazzati neri. Sono arrabbiati neri. Sì. Questi sono arrabbiati neri. Allora, alla fine contestano che cosa? Non si capisce, al di là di tutte le cose, perché riescono in realtà a scrivere quasi meglio di come parlano. Per esempio, questo Vassallo, presentando la manifestazione di oggi, questo signore ricciolino che mi ha dato Vassallo, il pedofilo e verrà denunciato. Io conoscevo i Vassalli, Valvassini e Valvassori che si studiavano nel Medioevo, no? Sì, Vassallo del suo piccolo cervello. Nel Medioevo, non c'erano i Vassalli, Valvassini e Valvassori. Sì, questo si chiama Vassallo, il quale scrive: portare un coniglio macellato in studio, deridere la giornalista Giulia Innocenzi, che peraltro non ha fatto deriso, perché è vegetariana, presentarsi in radio con un agnello esclamando che è morto è più buono. In realtà non ho affatto detto questo, ma lasciamo perdere. Sfidare gli animalisti con un salame in mano, telefonare alle associazioni vegane per ridicolizzare la loro scelta d'amore e tanto ancora per creare audience disprezzando la vita, insultando e deridendo chi la difende. Giuseppe Cruciani, ignorante e provocatore, non può essere un personaggio pubblico. Decide lui, come avete sentito prima, se uno può essere o no un personaggio pubblico. Colpevole anche Radio 24, che stipendia un soggetto simile, irrispettoso di migliaia di persone. Cruciani ha voluto attirare su di sé l'attenzione in modo scorretto e vergognoso. No, cioè, leggo, perché questo non è in grado di articolare. In modo scorretto e vergognoso, ora deve avere il coraggio di sostenere, argomentando con le persone che nutrono rancore nei suoi confronti. Tutti davanti alla sede di Radio 24 per chiedere che questo ignobile soggetto venga collocato in un impiego adatto alla sua ridotta intelligenza. Sì. Allora, abbiamo provato a fare questo. Cioè, abbiamo prima chiamato al telefono. Sì. L'unico risultato di questa discussione che abbiamo avuto è che mi ha dato del pedofilo. È stata l'accusa di pedofilia, sì, dobbiamo. Il tutto questo condito con la strada di via Monterosa bloccata. 20 poliziotti in tenuta antisommossa, che ringraziamo, che però si sono dovuti mobilitare qui. Gli amici della Digos che stanno facendo il loro lavoro. E che hanno protetto, perché altrimenti mi avrebbero menato. E che hanno protetto, questo sei testimone? Assolutamente sì, che hanno protetto la situazione. E tutto questo vegan style. Che devi dire? Cioè, questo è. Allora, Claudio da Udine, vai Claudio, vai, iniziamo, è 800 24, anzi mandatemi la signorina con gli annunci dei numeri, vai. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Claudio, vai. Ciao Cruciani, volevo portarti alcune testimonianze, anche se sono di tanti anni fa, no? Sì. Quando, adesso io ho 59 anni, ma mi ricordo quando avevo 11-12 anni, sì. Un pomeriggio siamo andati al paese vicino, che c'era un mattatoio, per curiosità, per vedere cosa succedeva, no? E c'era una mucca che era appena stata macellata, poi c'erano due vitellini vivi, piccoli, 3-4 mesi, legati alla corda. Prima ne ammazza uno, poi prende la testa di quello che era appena stato ammazzato, gliela sbatte in faccia all'altro per spavalderia nei nostri confronti, no? Allora? Questa è crudeltà, questa, ma, no? Sì, ma tutto quello che viene fatto e non è a norma di legge, nei mattatoi, è sicuramente previsto dalla legge come crudeltà. Ma allora? Io sono trapiantato di fegato, no? Sì, sei trapiantato di fegato. Ho conosciuto un altro trapiantato di fegato proprio lì in ospedale che faceva il macellaio. Questo è successo pochi anni fa. E mi ha raccontato che un giorno aveva 8 vitelli, aveva lì nella stanza, era senza la pistola, ha dovuto ucciderli col coltello, E insomma, sti qua li prendeva per l'orecchio, li scannava uno a uno, gli calpestavano i piedi, questi vitelli, tutti allarmati. Va bene, tutti Claudio, però che no? Mi vuoi dire su questa cosa qua? Chiunque ammazza un animale e non rispetta la legge è punito, e la cosa è prevista dalle norme, punto. Allora, immagini io non sono vegetariano più, ma mi ricordo alcune immagini di alcuni macelli statunitensi. Vabbè, che erano le mucche messe in fila, mazzata in testa, cadevano giù e poi e allora? Le lavoravano. E allora? Ma non mi sembra tanta differenza dalle camere a gas con gli ebrei in fila fatti la doccia e queste povere bestie che sentono il terrore e tutto quanto gli esseri umani. Vabbè, Claudio, ti posso dare del cretino tranquillamente. Dopo quello che hai detto, ti posso dare tranquillamente del cretino. No, sono cretino. Sei un cretino, perché se tu, Claudio, cretino patentato, se tu credi, certificato, cretino certificato. Se tu paragoni, se tu fammi parlare. Ma ti pare che uno paragona il macello alle camere a gas di Hitler? Ragazzi miei, c'è un limite ai paradossi, a tutto, però. È sempre crudeltà che venga usata sugli uomini. Cosa c'entra? O sugli animali? È sempre crudeltà. Ma nessuno dice ci sono le norme che puniscono la crudeltà nei confronti degli animali. Ma tu mi stai paragonando uno dei più grandi, forse il più grande eccidio nella storia. Guarda, con quelli che ammazzano legalmente, spesso legalmente. Sono sempre stati e sempre saranno. Le civiltà nascono e muoiono. Arriverà sempre una civiltà che distruggerà l'altra. Io veramente non ci posso credere. Guarda quello che è successo nella ex Jugoslavia ultimamente. Cosa c'entra? Guarda quello che è successo. Ma cosa c'entra gli animali? Gli altri. Ma qui siamo guarda impazziti. Il comunismo. È un mondo impazzito. La Cina, è impazzito completamente. È un mondo impazzito. È la storia che insegna Cruciani. Ma vabbè, ma d'accordo, ma cosa c'entra con gli animali? Senti, fammi finire. No, ma stai zitto un attimo. Cosa c'entra con gli animali? Guarda, io divido il mondo in due categorie. E vabbè, no? Quello ce ne faremo una ragione. Ci sono le persone che hanno scrupoli e le persone che non si fanno scrupoli. Vabbè, che allora sono solo se stesse. Allora? Chi più e chi meno. Dunque? Allora, chi non si fa scrupoli, alla fine, all'eccesso, può arrivare agli eccessi ed è in grado di fare qualsiasi azione. Sì, però, amico mio, andiamo al concreto. Guarda le banche come fregano la gente e via dicendo. Siamo come si fa a passare dalla vacca alla banca, ragazzi miei? No, è mezzo nazista. Come me, che sono gli sfigati, io ho scelto di stare dalla parte degli sfigati. Alcuni sfigati sono fortunati, hanno una buona sorte. Senti, amico mio, io non voglio infierire. Persone strane da cui ricevono insulti. Sì, però tipo mi devi come fai te con i vegani? Io non sono vegano. Vabbè, mi devi ascoltare, amico mio. Allora, caro Claudio, io non so. Tu provochi, Cruciani. Sì, vabbè, io posso. Dico, e allora? Non sono vegano, e allora? E allora? Tu provochi? Allora? E sai, causa effetto? Causa effetto, bravo. Se bravo. Tu crei una causa, un applauso a Claudio. Mi sono scocciato anche di una maglia di gente che capisce quel che capisce. Dai, vai. Applauso, Claudio, dai. È sempre ragione te comunque. No, ti sto facendo un applauso. Chi c'è in piazza? Chi c'è in piazza? Ciao Claudio, ciao. Chi c'è in piazza? Chi c'è in piazza? In piazza ci sono tantissime ancora persone. Sì, vabbè. Adesso ti passo una persona in particolare. Sì, chi c'è? Tu come ti chiami di nome? Perché? Perché ti passo Giuseppe, in diretta. Non vuoi parlare? Prima. Ma non sei venuta qui a parlare, scusa? Fammi entrare, fammi salire. Ma che salire? Ma stai parlando salire? Al telefono, tranquilla. Come ti chiami? No, non te lo dico come mi chiami. Non mi dici come ti chiami? Bene, non no. Me lo dire. Chi sei? Perché vieni giù, ne parliamo. Ancora. Sto facendo la trasmissione, sto lavorando. Conosci la parola lavoro? Io sì, ho appena finito alle 5:30 di lavorare. Bene, che lavoro fai? Io? Sì. Lavoro. Beh, dimmi che lavoro fai. No, non lavoro. Mi vuoi dire che lavoro fai. Dunque, non mi vuoi dire come ti chiami, che lavoro fai, però sei qua sotto e pretendi che io scenda. Vabbè, d'accordo, vai, fai quello che ti pare. Ma non mi volevi sputare in faccia, scusa. Prima non mi volevi sputare in faccia. Sì che non parliamo con persone stupide. Non parlate con persone? Stupide. Stupide, bene. Allora che siete venuti a fare qua sotto, scusa? Pronto? Sì, no, sto ascoltando un po' le voci che arrivano. Sì. La devi smettere di prendere in giro la sofferenza altrui, anche perché tu fai la svelta, la risata facile, perché il culo non è il tuo, né quello al mattatoio né quello al macello, ignorante. Sì. La devi smettere di prendere in Scusate, giro la sofferenza, perché te ne meriti il doppio e noi ti auguriamo un buon karma. Sì, che buon significa? Karma, vuol dire che diventi una vacca anche tu. Sì. Ecco, che rinasci, vai, passami qualcun altro. Fammi ma cosa no, no, col megafono, voce al volo di gente, voce al volo di gente, voce al volo, passami qualcuno. Allora, va bene, dai. Lui mi sembra uno bello agguerrito. C'è Giuseppe Cruciani al telefono. Chi è questo? E lui è veramente di no, guarda, certo che. Chi è questo? Chi è questo? No, pronto? Sì. Sì, sei Cruciani, sei chi giusto? È? Chi è? Chi è? Sono uno dei tanti che è qua a manifestare contro la tua ignoranza. Bene, come ti chiami? Disinformazione criminale. Come ti criminale, capito? Come perché ti chiami? Criminale. In quanto dire che carne e fa bene. sì, come in radio. In quanto dire che carne e gli allevamenti intensivi e ammazzare l'animale siano la cosa giusta è totalmente, eticamente e scientificamente sbagliato. Tra l'altro io sono un biologo e nutrizionista. Parliamone. La carne fa male, ormai lo dicono tutti, le maggiori società scientifiche al mondo lo dicono. E tu sei a livello di quelli che dicevano ancora della terra piatta, hai capito? Tu sei ancora di quelli che pensano però che gli esperimenti si possono fare la terra, almeno sugli animali, che gira intorno alla terra, che noi siamo un satellite, ma sei finito, sei solamente finito. Io di solito non uso toni di questo genere, ma tu sei solo un provocatore piccolo, piccolo dunque, con il sistema nervoso che hai, che è atrofizzato. Bene, capito? Se sono piccolo, però, perché sei venuto qua sotto? Siamo venuti qua sotto per dimostrare il nostro disprezzo. Ma se sono così piccolo, scusa, come ti chiami? Scusa, come ti chiami? Io te l'ho già detto come mi chiamo, non ripeto più. No, mi sono dimenticato, scusa. Come sei? Nomi, sono cavoli tuoi. Sì, sono, ho il cervello atrofizzato, sai. Ma non hai cervello, non hai niente, non ce l'ho, infatti. Spina dorsale, senti, non hai niente, non senti, hai. Amico mio, è finito. Sì, sono finito, ma scusa, se sono così piccolo, se sono così inesistente, cioè, perché vieni a manifestare qua sotto allora? Vengo a manifestare qua sotto perché tu offendi le persone. Ma sono inesistente, sono piccolo. Offendile. Sì, tu sei piccolo, però hai uno strumento di informazione molto grande, perché è facile parlare dietro una radio. E dunque mi capito? Vuoi cacciare? Vuoi far cacciare? Se tu cambiassi modo devo cambiare la gente, continua pure a mangiare carne. Sono cavoli tuoi. Scusi, quando ci sarà Radio Mucca si potrà fare, però per ed essere altamente provocatorio. Non posso essere altamente provocatorio. Esatto, profondamente cioè, altamente praticamente provocatorio. Mi vuoi rieducare in pratica. No, io non ti voglio rieducare. Sì, mi vuoi rieducare. Io non voglio niente, io voglio che torni a essere nel tuo silenzio. Fatti la tua trasmissione lasciando stare gli animali e le animalisti. Devo lasciare stare gli animali. Nessuno ti rompe più i coglioni, capito? E questo è semplice e chiaro. Pensa con qualcun altro, c'è tanta gente che fa del male. Noi che siamo qua solo a battere, ricordati che difendere gli animali è difendere gli esseri umani, perché alla base della violenza, alla base. Tu quando sei diventato da quando è che non mangi più carne o io pesce? Io sono 10 anni. 10 anni, prima che cosa hai fatto? Prima mangiava carne. Vabbè, ho capito, ma prima ero stato strutturato per mangiare, poi mi sono destrutturato. Dunque sostanzialmente prima eri strutturato, poi ti sei destrutturato. Vabbè. No, ma questo è ottimo, ma voglio capire prima. Anche dunque perché io tutti abbiamo una famiglia che ti insegna per questo, carità. È giusto mangiare, ma le cose stanno cambiando. Dunque prima hai commesso degli omicidi, prima sei stato un assassino in pratica, prima di cambiare. Praticamente sì. Guarda, io credo che la polizia vegana quando ci sarà il pianeta vegan, la polizia vegana eccetera, potrebbe arrestarti nessuno. Anche per il passato, capito? Perché tu sei perché no? io mi pento di quello che ho fatto in passato. L'importante è capire come hai fatto quando uno si pente, quando uno si certo, per carità. Il cambiamento è intelligenza. Ma quando uno si pente, scusami Bruno, quando uno si pente cosa fa? Un attimo che non sento più. Quando uno si pente cosa fa? Cioè hai fatto delle preghiere per pentirti? Ti sei assolutamente nessun tipo di preghiera. Ho solamente capito che era sbagliato. Ho provato prima personalmente, poi ho studiato. Come li consideri, per esempio, che ne so, i ristoratori che vendono carne, i macellai, per esempio, cosa sono per te? Assassini? Cosa sono? Vabbè, i macellai sono, ma certo, portano la morte nel piatto delle dunque persone. Dunque sono assassini? Sono assassini, prendono assassini. Cadaveri, cosa devono essere? Prendono cadaveri. Sono dei commercianti, vendono cose da mangiare, di che parliamo? Ma che commercianti, cose da mangiare, ma cose scusa, che fanno male, fanno malare le persone. I topi, come fai con i topi? Amico mio, i topi, come fai? Con i topi che sono in città, per esempio, i topi che c'è in casa, che fai? Ma io i topi in casa sinceramente non ce li ho. Vabbè, ma non tu, in generale, non so adesso dove vivi, ma qualcuno che c'ha un topo in casa non lo può ammazzare, secondo te? Un topo in casa si può prendere, si può portare fuori senza bisogno di uccidere, cioè, e si può liberare tranquillamente. Si può invitare ad uscire, scusi, dottor Topo, può per cortesia sortire? Come si fa? Ma che lei è matto come da bene? Il topo prende una scopa e lo ammazza, cioè, no? Cioè, vedi, una zanzara, si può schiacciare. Perché c'è bisogno di ammazzare un topo? No, lo dobbiamo ammazzare. Fa schifo avere un topo in casa, scusa. Anche ai propri figli davanti ad ammazzare un topo, portarli al circo, portarli a un delfinario. Il circo no. Non mi toccate il circo, grande tradizione secolare. Io sono un sostenitore del circo. Va bene tutto, ma il circo non si tocca. Ma il circo è uno dei più grandi spettacoli del mondo. Il circo con scheletri, gli elefanti che si chinano sulla... Viva i circhi! Basta! Ma non è cruciale il circo, che parlo, Parenzo, difendo il circo! Il circo è una grandissima tradizione! Sì, secolare il circo! Tradizione di tortura, ma quale tortura? Gli animali del circo gli viene dato da mangiare, vengono lavati! Voi parlate solo di viltà, voi vi muove, la base che vi muove è viltà! Ma è quale viltà? Ma li avete mai visti quei meravigliosi poni nel circo? Quegli elefanti straordinari che fanno l'inchino! Ma guarda, sì, bello, è la più grande tradizione. Vedere, se vengono trattati benissimo. Gli viene dato anche lo zucchero. Vado tutte le volte al circo. Io vado al circo. Che vai al circo a dire queste stronzate. Vado al circo. Fare più soldi dello sfruttamento degli animali. Io ci vado al circo, infatti. Sembrava, guarda, anche allo zoo vado. Sembrava che con Cruciani sia riuscito a fare ogni, un discorso. Ogni domenica vado allo zoo. Io ogni domenica vado allo zoo. Aspetta un attimo, mi ripeti come ti chiami? Che tu è uno di quelli con cui si può parlare, non quel signore di prima che mi ha dato del pedofilo. No, ho detto che si incominciava a cercare, no, aspetta, almeno, oh, ma naturalmente forse era tutta una presa in giro, ma non ma mi no, importa. Aspetta un attimo, fermo lì che c'è la pubblicità, scusa, noi funzioniamo anche con la pubblicità, lo so che magari per te è complicato immaginarlo, però è così. A me la zanzara non mi piace, mi eccita. La zanzara. Sono vegano, maggio e manzo italiano, oggi più che mai, avanti tutta, numeri di telefono. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, il biologo c'è ancora? Andro, c'è il biologo ancora? Allora, il biologo dovrebbe essere qua nei paraggi. Vabbè, quando ce l'hai, quando ce l'hai, chiamamelo. Intanto Marco da Bergamo, vai Marco, 800 24 00 24. Ma già l'ha detto quella, dai Marco. Sì, buonasera Cruciani, dimmi. Buonasera Parenzo. Ciao caro. Aspetta, aspetta, un momento. Mi dicono che c'è la polizia fuori dal Sole 24 Ore in stato di assedio. Molto bene, la mia solidarietà alle compagne e ai compagni che vogliono sfondare i cancelli, no, del Sole 24 Caparra, Ore. Ma che c'entra adesso la solidarietà? Mi hanno detto di una manifestazione operaia meravigliosa, come operaia, negli anni 60. Sì, alcuni sono operai. Ti prendevano a sassata negli anni 60, ti avrebbero preso a sassata, avremmo spaccato tutto. Peraltro mi hanno detto di una nuova nomina in questa cosiddetta Confindustria. Sì, è stato eletto il presidente. Sì, ecco, è un atto vergognoso quello che è stato ma fatto. Ma come vergognoso? È un'elezione democratica. Dovevano eleggere Mario Capanna alla presidenza della Confindustria. Hanno eletto questo signore di cui non so neanche il si nome. Si chiama guarda. Boccia. Beh, guarda, bisognerebbe occupare le aziende di questo signore, perché assolutamente lo voglio dire qui. Ma no, le aziende. Bisognerebbe il proclama che faccio agli amici che sono sotto la Radio 24 di spostare la loro protesta verso obiettivi ben più grandi, cari amici che siete là sotto. Io non rispondo di quello che dice Capanna, dice occupare le aziende di Boccia, per carità. Mi segnala il dottor Poletti che in Cina la settimana scorsa ha mangiato tartarughe e coccodrilli. Ma Poletti no, chi? No, non lo so, signor. So Poletti chi, scusa? Signor Roberto Poletti. Ah, Roberto Poletti, grandissimo inviato. Non so se ne ha mangiato. Inviato di quinta colonna. Ah, no, eccolo qua, in Cina, scorsa settimana mi manda anche la foto tartarughe e coccodrilli. Ma non lavora, che cazzo è andato a fare in Cina? Non ho capito. Poveretto, non può andare in Cina. Allora, prima del macellaio da Bergamo, Marco, la categoria dei macellai, come avete sentito, viene considerata da questi signori, ma anche da persone distinte come... Ah no, mi ha scritto, cretino, non li ho mangiati, li vendevano. Che cazzo vendevano? Coccodrilli e tartarughe? Vabbè, che male c'è poi a mangiarli, scusa. Sì, no, appunto. Allora, voglio far sentire, a un certo punto, ieri sera a Matrix c'erano Katrin Spack, che è diventata vegana, Katrin Spack e la signora Rossella Seno, cantatrice, cantante e attrice. Però è stata utilizzata questa cosa, cantatrice. Vabbè, è molto bella, già l'ho detto, la signora Rossella Seno. Le quali però avevano ai piedi delle scarpe di pelle. Qualcuno ha notato questa cosa? Contraddizione, contraddizione. Le scarpe di pelle proveniente da materiale animale. Da materiale animale. hai un cadavere ai piedi. Sono di pelle. Ma anche qua voglio dire. No, ma queste sono scarpe di pelle. Non puoi dire che lui è un assassino. Allora, hai ragione. E poi avere gli stivali di pelle. Hai ragione, ci ho anche pensato molto prima di indossarli. No, anche Catrina, anche lei. Ma io non ho detto di essere vegana. Sì, però, ho detto che avevo delle eccezioni. Ma uno non comunque può mangiare... c'è un punto, Luca, un punto che vorrei. Che cosa dice Giuseppe? Che cosa dici? Giuseppe, tutti vegani alla matriciana con le scarpe di pelle, dai. Sì. Ma di che stiamo parlando? Bisognerebbe parlare di un'altra cosa. Vegani così, alla Carlona, dai, con le scarpe di pelle. Al di là delle diete e del cibo, bisognerebbe parlare dell'etica di questa filosofia. L'etica, la filosofia, intanto con le scarpe di pelle e piedi. Con le scarpe, l'etica, la filosofia, le uccisioni, gli animali, scarpe di pelle e piedi. E la signora, quella là, quella con i capelli rossi, a un certo punto ha detto: beh, sai, ci ho pensato molto prima. Però erano delle scarpe che non ho comprato recentemente, che le avevo già da tanti anni. Ah, roba incredibile, guarda, è incredibile. Oh, il biologo ce l'abbiamo o no? Biologo. C'è. E poi volendo abbiamo anche il medico. Ecco il biologo. Il biologo, dammi il medico, biologo, va. Biologo. Pronto. Adesso ti passo un macellaio, gli ha dato dell'assassino. Marco? Sì, ci sono. Eccomi, ti ha dato dell'assassino. Dai dell'assassino di nuovo a questo signore, biologo. Certo, assassino e retrogrado. Sei veramente, fai un mestiere che ormai è inutile. Beh, è un mestiere violento. È un mestiere che non serve mio. A niente. È un mestiere che solamente fa disinformazione, fa ammalare la gente. Ma cambia mestiere. Cambia mestiere. Che schifo. Marco, dimmi, Marco, vai. Che lavoro potrei fare allora? Dimmi tu. Qualsiasi le 5 famiglie che altro... manteniamo, gliene devi mangiare tu allora dopo. Qualsiasi altro... Vabbè, ma cosa vuol lavoro. Dire fare un discorso del genere? Vabbè, ma allora anche chi dire? Produce armi dici, vabbè, allora continuiamo a produrre armi, perché? Perché comunque io non so cosa fare. Ma le armi non così fanno continuano... Le armi non fanno. Guarda che allora, il massacrare gli animali come vengono massacrati, soprattutto trasformarli animali, in carne. C'è un benessere animale che viene seguito. Ma quale benessere animale? Ma quale benessere animale? Ma guarda, ma tu che ormai un biologo, siete tutti no, malati. Aspetta, fermo lì. Tutti malati, ma vai a vederti i rapporti delle più grandi società. Va bene, Marco. La Marco. Per il fondo, la ricerca col va bene, Marco. Marco, però scusa un attimo, Marco. No, aspetta, come si chiama il biologo? Non mi ricordo più. Biologo, senti, una biologo vegano, scusami un attimo. Tu vuoi fare chiudere la macelleria di Marco? Questo no, non è che non tutte la macelleria, io vorrei sensibilizzare le persone. No, tu vuoi farlo chiudere. Gli hai detto che è un assassino e che deve chiudere. Deve vabbè, cambiare ma mestiere, ma chiaro. certamente un cazzo tutti, ma invece sì, invece capito, ma tutti sei un pazzo chiudere. Sei ma come voi siete dei pazzi malati che fate ammalare la gente, che fate disinformazione, guarda. Siete dei violenti, siete. Noi siamo violenti, noi siete, tu vuoi fare no, chiudere noi, vuoi fare chiudere la macelleria a questo qua tutte, e mandare sull'astrico tutte le forme di vita, siete voi violenti. Siete sì, voi responsabili rispetto della violenza, di tutte capito? Le forme parte di vita. Dalla base. La base della violenza si pone sempre sugli scusa, animali. Scusa, no, secondo professore, te, fino a prova contraria, ad oggi le macellerie non sono fuori legge, per fortuna. Sì, ma infatti... Quindi, di che cosa sta parlando? Se lei non vuol mangiare carne, non mangi carne, mangi la carota, ma non rompa le balle a tutti gli altri, ma non ho mica capito. Oh, ma che mestiere è? Io ho a cuore, a parte la salute dei miei compagni, visto che la carne fa male. Vabbè, è questo. E poi soprattutto gli animali perché sì. Non faccio distinzione, scusa, perché secondo te scusa ma qua ci vuole qualche intelligenza, voi manca, poi figurati un scusa, biologo capire. Ah, il macellaio non può capire, un ignorante di vabbè, suo ragazzo, uno è un che, pescatore che... scusa invece pescatore sono assolutamente assassini nello stesso parere, assassini pure loro, assassini pure loro, i pescatori sono assassini pure loro, vabbè abbiamo impoverito poi i mari, il pianeta sta impoverito i mali, ma cosa c'è? Provate a guardare quel documentario che sta. Ma noi guardiamo tutto, non ti preoccupare. Anche pescatori degli assassini. Allora pescatori capite, assassini. Allora. Senti una cosa, ma io non ho capito bene. Ma uno che commette un assassino, in teoria va preso e arrestato. Cioè, nel tuo mondo ideale, uno che consuma carne è complice di un assassino. Dunque, in tuo mondo ideale, uno che commette una cosa del genere commette un reato o no? Allora, commette un reato. Sia con gli animali, sia verso se stesso, perché la carne fa verso se stesso male, chi se ne frega? Fa male, vabbè. Fa malissimo. E ma tu allora, una zanzara la schiaccio o no? L'ammazzi una zanzara o no? No, io non la schiaccio una zanzara. Ti fai pungere? No, allora, io cerco di starne lontano dalle zanzare. Metti che, metti che ci sono le zanzare. Non è che sono così intelligenti a dire bisogna stare metti lontani dal biologo vegano. Allora, sempre con queste... Arrivate sempre, quando avete, andate sulla zanzara, su queste cazzate qua, oppure dite, ah, ma ci sono i bambini che soffrono, voi state... No, io ti sto spiegando, perché non schiacci le zanzare? Ti fai pungere dalle zanzare invece di schiacciarle? No, le zanzare le scaccio, punto e basta. E se questi stanno addosso, che fai? Se non si scacciano, ti vogliono pungere, che fai? Ti ammazzi o no? Vabbè. Prendo e le scaccio un'altra volta. Cioè, tu dai capito? Lo stesso valore, la zanzara è come Giuseppe Cruciani. Ma non è, allora, Giuseppe Cruciani sei molto meno, per quanto molto quando meno. Parli così. Cioè, molto se tu meno. Devi salvare... Uno, aspetta, sì. Fammi finire di parlare. Il discorso è proprio questo, che io non so se non capisci. Cioè, io sono un infame, sono un infame o no, secondo te? Per quello che dici, per come ti presenti, assolutamente sono sì. Un infame. Tu puoi mangiare la carne, ma non puoi andare cioè, merito a un sacco di botte, merito un sacco di botte. Sì, va bene, tu vuoi sentirtelo dire così no, puoi dire è una domanda, dito. È una domanda, dimmelo, merito io ti dico solo, io non dico sì. Cosa meriti, io dico vabbè, solo. Ma allora non hai il coraggio, no, siete voi che non avete coraggio, vabbè. Io dico solamente che a fomentare la violenza, poi se un po' di questa violenza ti arriva addosso, uno si lamenta. Beh, io non vado sotto, io per esempio, se sì. Sono, io... Ma io sono a casa mia qua, non è che vado a romperti i coglioni a te, alle manifestazioni che fai tu, amico mio. Non vado a rompere i coglioni alle tue manifestazioni, non mi presento alle tue manifestazioni con un salame in mano, sono a casa mia e faccio la mia trasmissione, sei tu che vieni sì, a rompere i coglioni a me. La trasmissione entra dappertutto, e allora? Entra in tutte le case, allora fomenta la mia. Tu puoi... mia di casa. Ma tu puoi fare un'altra radio, fai Radio Mucca, fai Radio Mucca, fai Radio Mucca tu, fai Radio Elefante. Non esistevi prima, capito? Fai Radio Mucca, fai una zanzara, rompi i coglioni che mi è arrivata addosso e ha urtato la mia sensibilità come la sensibilità di tutta la gente che c'è qua. Bene, sono contento, fai Radio Mucca allora, fai Radio sì, Mucca. Va dai. Bene, faccio Radio Mucca, sarà sicuramente meglio e più intelligente della bene, vostra. Bene, ottimo, ciao amico mio, ciao, ciao. Allora, caro Parenzo, io Andrea, Marco, ti ho isolato, scusa, no, ma ce l'hai, Marco, sono, scusami. Un po' che aspetto, ma ci sono. Non so, un po' che aspetti, ma ti volevo... Allora, tranquillo, non c'è problema. Ma tanto quello ti ha dato dell'assassino. Qual dai. È la cosa che vendi, che va di più in questo periodo? È vero che la c'è stato... La carne cruda. Ma è vero che c'è stata una diminuzione della vendita di agnelli quest'anno a Pasqua, come ho letto, come dice quest'anno la Coldiretti? Sì, c'è stato. Ma noi infatti non è che ce ne frega qualcosa, non è che vogliamo che la gente mangi più agnello, non ce ne frega niente, ognuno fa quello che vuole. Io ho chiamato per essere a sostegno di voi due, di Parenzo Cruciani, perché mi schiero con tutta la categoria dei macellai. Considerati assassini, no, ieri sera anche capò nazisti da qualche pazzo scatenato. Una cosa pazzesca. Siamo tutti con te, Giuseppe, non mollare questa battaglia. Ciao amico Siamo mio, ciao. Te, ciao. Ciao Marco, ciao, ciao. Con noi un personaggio che ci racconterà una storia, caro Parenzo, che farà incazzare ancora di più i signori nazi animalisti, i signori nazi vegani. Il clima è talmente rilassato che c'era bisogno, bravo, giusto. Sì. Clima sereno, sembra di stare a Saigon, cazzo. Caspita, no, non si può più dire, no. Cosa? Adesso è passato Barisoni qua davanti. Ho detto così mi è scappata la parola. Che la parola cazzo, ragazzi, non puoi più però pronunciare. Non si può più pronunciare. E da oggi io dico che se dovessi pronunciare oggi ancora la parola cazzo. Dico all'azienda di togliermi da adesso cazzo. 100 euro ogni volta che lo dico. Sì, io mi quando l'azienda... Vabbè, come al solito mi interrompi. C'è un personaggio che è assessore alla caccia, che poi non capisco bene cosa significa assessore alla caccia. Ho chiamato oggi un assessore alla caccia. Se c'è l'assessore alla pace, può esserci anche l'assessore alla caccia. Sì, questo me. È vero, questo è vero. Mirko Lorenzon, ciao Mirko, sì. Come stai? Ciao, tutto bene qui. E io un cacciatore, immagino. Ma io sono un cacciatore, sì. Ah, ecco, sì, non è che metto... Cosa cacci, Mirko? Tanto per rasserenare gli animi. Io sono appassionato più della caccia con i cani da ferma, insomma, da lepri, fagiani. Lepri, fagiani. Come si cacciano le lepri e i fagiani? Facciamo un piccolo riassunto. Cioè, sì. Quando uno va a caccia di lepri e fagiani... Uno che va a caccia di lepri e fagiani deve alzarsi, naturalmente, la mattina, in particolar modo presto, avere un bravo caccia, cane. Cioè, sì. E il cane scova la selvaggina e dopodiché... La selvaggina corre, è drammatico. E la selvaggina corre, no? E tu che hai fucile in mano e spari, insomma. Cioè, uno sparo. Okay. Tu sei molto bravo? È abbastanza bravo, sì. Ma muoiono al primo colpo? Ho un ottimo colpo, sì. primo colpo al massimo due. Ecco, quando trovi questa lepre morta, no? Questa lepre morta la vai a raccogliere. Che cosa provi, caro Mirko? Ma non si prova nulla. Però la caccia, guarda, che è una passione millenaria. Io sono a favore della caccia, non solo, ma i cacciatori italiani, caro Parenzo, anche qui lo dico per asserenare un po' il clima, naturalmente. Certo. Mi vogliono praticamente fare presidente ad onore. Hai capito? Presidente ad onore. Okay. E ripeto, sarei orgogliosissimo di questa carica. Vabbè, allora non ho capito una cosa, Mirko. Le lepri si ammazzano così, invece i fagiani? Il fagiano è uguale, il fagiano vola via e praticamente viene impallinato, insomma. E il loro destino è quello, dici, no? E il loro destino è quello, insomma. Senti, caro Mirko, allora, la cosa fenomenale, Parenzo, è che ha organizzato recentemente una cena a base di nutrie. È un topo la nutria. Un topastro, cioè un topo piuttosto. Ma no, la nutria non è un topo, appartiene alla famiglia dei conigli, è un roditore. Dimmi, ma com'è la da mangiare la nutria? Ma è buonissima, sarebbe eccezionale per farla per la dieta degli ambientalisti. Cioè? E degli animalisti. Cioè? No, ma è buonissima, nel senso che mangia solo, è un erbivoro al 100%, si nutre solo di erba, ha una carne saporita, zero grassi, zero colesterolo, ricca di proteine, fa bene. Senti, ma quante ne avete prese per fare la cena? Ma circa una quarantina. E chi l'ha cacciata? Chi l'ha presa? Ma ha cacciato i cacciatori perché erano cacciabili. Adesso però la cosa fondamentale è che tu ci spieghi qual è il menù a base di nutria. C'erano previsti dei crostini con del fegato di nutria. Poi? Spaghetti con ragù a base di nutria, sempre carne di nutria. Poi? Poi altro abbiamo fatto dei rotolo tipo di vitello, sempre a base di filetto di nutria. C'è l'arrosto. Poi nutria arrosta e nutria al forno. Sì. Poi? Quindi c'era di tutto di più, insomma. Poi? E poi gelato poi di nutria. Poi i contorni, le zampette a volte con, mi sembra, del prosciutto così. Scusa, non ho capito, le zampette di nutria? A volte con la pancetta, come ricordo. Cioè, come involtini. Come involtini. Le zampette di nutria, questo non l'ho mai sentito. Zampette con la pancetta. Ma e come sono le zampette di nutria? Le zampette, però, dai. Quello ma guarda che sono buonissime, come le alette di pollo, no? Non come hai mai mangiato le alette di pollo? Le zampette di nutria. Ma mangi le alette di pollo che sono di allevamento. No, le alette le ho mangiate. È uguale. È vero che vuoi aprire un ristorante, ho letto? Ma guarda, sarei interessato ad aprire proprio un ristorante, sarebbe molto molto bello un ristorante a base di nutria, sono sicuro, siccome non ce ne sono, c'è sempre chi ha la curiosità di assaggiare questa nutria e avrei anche clienti. Allora, il menù è questo, crostino con fegato di nutria, spaghetti a ragù di nutria, correggimi, nutria al forno, nutria arrosto. Poi? Nutria arrosto e zampette di nutria con involtini e zampette con l'involtino di pancetta. Con involtino di pancetta? No. Bene, naturalmente un buon vino può essere un buon Raboso Piave. Vabbè, certo, non c'è dubbio. Quindi... Ma il gatto, l'hai mai mangiato il gatto? Il gatto no. Il gatto non l'hai mai mangiato, no, ma secondo te è giusto? Il gatto mangia i topi, no? Ma è giusto mangiare il gatto? Lo mangeresti tu? Ah no, bisogna chiedere da parte di Vicenza, poi che lo mangiano. Va bene, ciao caro, ciao, a presto, Mirko, ciao, ciao. Ci sentiamo, ciao, Mirko, ciao. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. Sai comunque sei veramente un tipo, cioè non capisco perché non vuoi mangiare la nutria, cioè qual è il problema? Sei veramente razzista. No, la nutria mi fa molto. Cioè l'agnello sì e la nutria no, non mi ho capito. Fa grandissima... Solamente perché vedi questa. Mi fa impressione, mi sembra un topo, è come mangiare un topo, lui può sostenere. Ma no, ma cosa, è una cosa completamente diversa la nutria, hai visto? No? L'assessore alla guerra può sostenere qualunque cosa. No, è l'assessore alla caccia. Alla caccia, scusa. L'assessore alla guerra lì può sostenere qualunque cosa, però. A me sembra un topo, quindi può aprire tutti i ristoranti che vuole. Ma se non lo sai, ma cioè, mi fa la vedo sta nutria, non mi piace. Poi io sono quello che invece mangia il cervello fritto, l'ho detto tante volte, lo rivendico. Il cervello fritto buonissimo, impanato con sopra il limone. Sì, si mangia molto al quartiere ebraico di Roma, io l'ho mangiato là per la prima volta, perché l'unica cosa che non mangiavo era il cervello. E quindi sì, no, certo. No, ma adesso cervello fritto buonissimo, meraviglioso, ad esempio, quello certo. A nutria. Nicola da Vicenza, vai Nicola. Ciao ragazzi. Dimmi caro, dimmi. Scusate, noi il gatto lo mangiamo per tradizione. Vabbè. Ma non lo so, non si mangia, non credo che si mangi più il gatto a Vicenza. No, ci sono dei posti dove lo fanno ancora. Non ma non è legale. Però, ecco, amico mio, Nicola, tu mi devi fare da insider. E allora mi devi fornire numeri di telefono, di luoghi, posti, persone che mangiano ancora il gatto di nascosto, perché non si potrebbero, sai, no? Beh, lo so che non si può mangiarlo, difatti. Ma no, ma non credo che ci sia ancora qualcuno, dai. 15 anni fa io ho assistito. Ma 15 anni fa? Ma c'è anche il detto Vicentini Magnagatti, Veronesi tutti matti. Sì, ma sono cazzate, dai, su. E Padovani? Gran dottori, veneziani, gran Padovani, gran dottori, veneziani, gran signori. Vabbè, adesso ragazzi, non stiamo sulle cose scontate. No, ma i detti popolari hanno un fondo di verità, invece. Cioè, i detti popolari... nel Veneto lo sanno. Ma sono banalità, dai. No, su. Sanno tutti vero, che a Vicenza. Ma stai scherzando? Non c'è tutti. Più questa vero, tradizione. Vero, dai. Vero. Vabbè, Nicola, che mi vuoi dire, dai? Allora, volevo dire, raccontarvi un po' quello che mi è successo a me da un paio d'anni a questa parte. Io ho una ragazza che era anche un bel pezzo di gnocca ed era brava a fare sesso. Sì. Cazzo, mi è diventata vegana e non mi fa più pompino. No, vabbè, questo è un tema però, fondamentale. Scusi, tu sei partito adesso, bene, poi a un certo punto hai detto. Ma ti pare che uno chiama è diventata vegana? Simile. Com'è? È diventata ma vegana? Sono due anni che è vegana. Ma dai, ma che schifo. Ma che roba è? Ma perché devi dirlo? Beh, però radio? È un grande racconto di verità. Ma quale racconto di verità? Un, ma un racconto di un problema che ha. Questo ascoltatore ha un problema. Un problema mentale, già. No, qua. Non è mentale. Problema serio. Si è messo con una vegana che non fa più certi lavoretti. Non fa più la fellazio. È così, ma che devo fare? Ma se questo qua ci ha raccontato un trauma, me, è il racconto di un trauma. Io, guarda, perché tutto. I tuoi traumi devono essere ma, no, ma i miei traumi inferiori. Ma io non li racconterei mai. Ste robe, ma io, guarda, tollero anche quei quattro scalzacani che sono là sotto. Ma non da uno che racconta questo trauma personale, ma uno che telefona alla radio per dire questa Nicola, roba. Nicola, resta lì perché dobbiamo andare a fondo è di questa cosa. Andiamo a fondo, Cruciani Akbar. Cruciani Akbar, Parenzo Akbar, Parenzo Akbar. Zanzara Akbar, Zanzara Akbar. La zanzara. Ieri sera ascoltando la zanzara mi sono reso conto di una cosa. Vaffanculo ai nazi vegani. Avevo deciso di smettere di mangiare la carne, oggi mi mangio un agnello intero. Allora, ci ha chiamato un nostro ascoltatore abituale che si trovava, pur essendo di Ferrara, di passaggio a Milano. Ah, bene. Ed è venuto, sapendo di questa manifestazione nazi vegana, sotto il sole 24 ore, Giovanni, mitico Giovanni da Ferrara. Ma Giovanni è vegetariano, no? No, Giovanni. Che vegetariano, si mangia la carne a strafottere, credo. Giovanni! Ciao ragazzi! Ciao, ciao, che dici Giovanni? Siete una delusione. Perché? Perché? Dimmi. Ma perché io sono venuto apposta per vedere questa grande manifestazione. Ma è grande, erano 100 persone prima. Ma che 100 persone? Qui ci sono 10 persone che strillano vestiti di nero come i fascisti, quattro gatti. Per cui in realtà non sente nessuno la trasmissione o sono quattro gatti vegani, quattro scelte. Vabbè, adesso hai chiamato per romperci coglione, Giovanni, scusa. Vai, vai a diglielo in faccia. Erano 100 persone. Erano... Fatti menare da questo. Ma dimmi la tua opinione, dimmi la tua opinione. Vestiti da fascisti che strillano, quattro scemi. No, l'opinione è questa. Se fosse per loro, sì, cioè per gli animalisti e per i vegani, noi avremmo completamente sterminato tutte le pecore, le galline, perché se non fosse per l'uomo sarebbero eliminate, perché li mangiano i lupi, li mangiano gli orsi, voglio dire, sono animali destinati giusto, a giusto. Essere mangiati da qualcun altro, sarebbero estinti, se fosse per loro tutti questi animali sarebbero estinti. Sì, questo è vero. Perché questi animali vengono allevati dall'uomo, altrimenti non ci sarebbero più, perché sarebbero sparsi. No, forse alcuni non ci sarebbero nemmeno, diciamo, no? No, non ci sarebbero più, sarebbero uccisi dalle volpi, dai lupi, comunque sarebbero morti, anzi nel periodo dalla nascita alla morte vengono trattati benissimo dall'uomo, mentre invece se fossero in cattività, se fossero in giro, anzi se fossero, come si dice, selvaggi, soffrirebbero la fame, la sete, il freddo, verrebbero uccisi, cioè in realtà l'uomo li salva questi animali. Senti Giovanni, ma se tu conosci una ragazza, no? Perché abbiamo incontrato un problema molto grave, abbiamo dovuto affrontare ancora qui collegato con noi, quello di Nicola da Vicenza, che sostiene che si è messo con una ragazza vegana e questa ha deciso di non fargli più certi lavoretti sessuali. Oh, ognuno c'ha i suoi problemi. Allora Giovanni, se tu ti mettessi con una ragazza vegana, no? Vegana, sì. La cosa è compatibile o no? Oppure non è possibile che tu ti metta con una vegana? Allora, i vegani sono malati di mente. Ah, così, malati per di cui mente. Tu non puoi frequentare una persona malata di mente, perché le persone che brucano l'erba, sì, come loro, finiranno per rovinare il mondo, perché non ci sarà più erba, non ci sarà più radici, questi mangiano radici e l'erba. Allora, chi non mangia la carne, alla fine gli mancano delle proteine nel cervello che li portano. Vabbè, se non fare il professore, perché dici che sono malati di mente? Sono dei malati di mente, perché sono dei fissati, degli integralisti dell'alimentazione che portano alla rovina in realtà. Però diglielo in faccia, avvicinati a quei signori là, fatti picchiare se hai il coraggio, Giovanni, tanto che fai il gradasso. Intanto, no, se io avessi saputo prima, qualche giorno prima, con degli amici avremmo organizzato dei panini con la porchetta da distribuire a tutti sotto sole 24 ore. Bello, bellissimo, niente di più buono di un panino con la porchetta, fantastico. Allora, mi sembra che... Allora, non voglio sbagliare, ma c'è una notizia che è arrivata delle dimissioni del ministro Guidi, se non sbaglio. Il ministro chiuso, Guidi allora. Si dimette, mi sembra, ecco, siamo ministro Federica Guidi si dimette. Beh, sì, pazzesco. Ministro Federica Guidi si dimette per questa telefonata tra lei e il suo... te credo. Ci abbiamo visto giusto, come so, dall'inizio abbiamo invocato le dimissioni, subito, sono arrivate le dimissioni un'ora e un quarto dopo. Vabbè, Giovanni, avvicinati al gruppo di Matti, là. Pazzi scatena, ma sono quattro gatti. Avvicinati se hai coraggio, però, avvicinati. Stasera io vado in un ristorante a mangiare la cotoletta alla milanese, già che sono a Milano. Diglielo. Un risotto con l'osso buco. Al ristorante ci sarà più persone che non questi quattro scemi. Vabbè, ma questo che c'entra? Questo non c'entra niente, lo sappiamo che... No, questa minoranza assoluta sei tu che stai valorizzandola. Perché sono quattro deficienti e hanno a disposizione una radio che è ascoltata da milioni di persone... Altrimenti non li ascolterebbe nessuno perché sono dei deficienti. Hai presente quel personaggio pseudo famoso che si chiama Red Ronnie, ad esempio? Sì, pseudo famoso. Perché uno dice che chi mangia carne è un assassino, è un deficiente, è ovviamente un malato di mente. Ed è un malato di mente. E tu ti assumi la responsabilità solo, di quello che dici? Solo la zanzara dà voce a questi deficienti. Solo la zanzara, in realtà è colpa tua, perché sono quattro gatti. Ma come colpa mia? Gatti. Ma noi apriamo il microfono a tutti, anche a te che non chiami da Ferrara. Bisogna dare spazio ai malati di mente. Quando uno chiama e dice viva il nazismo, non bisogna dargli retta. Ma non dire cazzate, dai, su, capito? Giovanni. Quindi, dai. Bisogna fare in modo di impedire Giovanni, a questi cretini di parlare. C'è la famosa frase di quel filosofo Voltaire che diceva: io non sono d'accordo con quello che dici, ma darò la mia vita finché tu una la possa cazzata, dire. Una cazzata, non bisogna farli parlare. Sì, non ha tutti i torti. Sei d'accordo con Parenzo? Non bisogna farli non parlare, ha tutti sono torti, malati certo. Di mente, malati di mente, vanno in manicomio. Il problema è che non tutti i manicomi. Vabbè, non ti si sente più. Ciao Giovanni, ciao. Ciao. Allora, Nicola? Sì. Allora, spiegami il tuo dramma. No, volevo appunto, visto che avete, diciamo, le persone sotto casa che sono illuminate. Sì, tra l'altro, no? Mi sono anche dimenticato di sottolineare che quel signore lì che è venuto prima, no, Parenzo? Mm. Che è venuto prima a parlare all'inizio della trasmissione, ha detto pure: sappiamo dove abiti, ti veniamo a cercare sotto casa. Sì, sappiamo dove stai. Incredibile. Io, buono. Vabbè, allora? Vabbè, volevo che potevate girargli la domanda se è vero che diventa vegano dopo un certo punto il sesso diventa... Ma diciamo io non credo così. Perché la tua fidanzata non vuole più farti, cioè, non vuole più... Vabbè, perché ha detto che gli sembra... Ha detto che gli sembra di mettere in bocca un pezzo di maiale. Ma non è ma quello. Ma lei perché deve dire ste porcherie? Ma qual è il beh, motivo? Ma porca della miseria, è vero, eh? Cosa? Ma detto... chiamare da uno sessuologo, da uno psicologo, da uno psichiatra, vada da qualcuno. No, ma volevo chiedere... vabbè, ma devi sempre dare una specialista per qualsiasi cosa. Volevo capire se ero io che non capivo niente o se era lei, perché... Gli ho detto, cazzo, gli do il colore verde, come fai finta che sia un cetriolo? Beh, questa è buona però, sì, del colore verde. Ma sa che lei, Dio, ma lei è una persona veramente volgare, se ne rende santo conto? Dio, vero, santo vero, Dio, vero, santo. Se ne rende vero. Conto o no? No, sì. La possiamo lei è stato lasciato invitare, per la sua volgarità la possiamo estrema. Invitare a non pronunciare la parola Dio in questa trasmissione? Ah, mi scusi. No, mi scusi un cazzo, Nicola, ciao. Emilio, ciao. Massa Carrara, vai Emilio. Sì, ciao, ascolta, sì. volevo... Io buono, c'è niente di voce. Vabbè ragazzi, però adesso calma, vai Emilio, dimmi. Allora, volevo dire un concetto molto semplice. I vegani sì. dovrebbero rompere meno i coglioni, perché io vado a mangiare dai vegani tranquillamente, quando esco sono tranquillo e sereno e non gli rompo il cazzo. Io ho fatto della mia vita l'abbattitore di mestiere per pagarmi gli studi. Mio padre era un grandissimo macellaio, mio nonno era un macellaio, sì. Io ho dovuto smettere per motivi di salute, sì. Però mi sono pagato gli studi a fare la battitura. E diglielo in faccia a questi che vorrebbero ridurti sul lastrico, ti vorrebbero ridurre povero, davanti, ti vorrebbero impoverire. Che davanti, no, che sono davanti, qui sotto e se ne sono quasi andati perché si sono giustamente rotti i coglioni di parlare al nulla. Il piscio di gatto. No, attenzione, un momento. Qui la violenza in questo posto, che ne dica Capanna, la violenza qui non alberga, Non al Mega. C'è una differenza netta. Io non non ho mai incitato alla violenza nei confronti di nessuno. E quando qualche stronzo intellettuale del cazzo, qualche pseudo intellettuale del cazzo, mi dice che sono un coniglio, mi vanto di essere scappato di fronte a questi quattro pazzi. Mi vanto, me ne vanto, chiaro? Me ne vanto. Valerio da Brescia. Poi, che c'è ancora? Dimmi. No, questi animalisti che tengono gli animali, ci limonano, e quando hanno i vecchi in casa, puzzano. Vabbè, ho capito, questo, ognuno fa quello che vuole. Se uno vuole dormire con un cane, vuole dormire con un animale, vuole dormire con una nutria, se uno vuole consigliare nutria come figli, per me sono malati di mente, ma può tranquillamente farlo. Emilio, ciao. Pino, Napoli, vai. Oh, Giuseppe, ciao David. Ciao. Ragazzi, avrei una domanda da porre a questi signori che amabilmente fanno salotto lì sotto. Io sono un non vedente, quindi vado in giro a qui per Napoli con un cane guida. Sì. Vorrei capire se posso continuare a farlo, oppure, visto che questi animali comunque vengono addestrati. Attenzione, perché lì c'è lo sfruttamento degli animali. Questa, è una buona domanda. Ci potrebbe essere sfruttamento degli animali, secondo questi cretini. È la più grande dimostrazione dell'animale al servizio dell'uomo e di quanto l'animale può fare bene all'uomo. Non so se posso e devo temere per la mia incolumità per questi pazzi, oppure vado tranquillo. Non lo so. Qualche pazzo potrebbe dire: stai sfruttando il cane, stai trattando il cane come un tuo sottomesso. Capito? Esatto, perciò volevo porre questa domanda. Senti, Giuseppe. Comunque, guarda, dico questo, qua tra terrorismo jihadista, terrorismo animalista, insomma, meno male che ci siete voi che ci fate un po' ridere, sennò noi siamo il grande baluardo di libertà, che ne dica qualche stronzo che scrive puttanate in giro per il web, il grande baluardo, un grandissimo baluardo di libertà. Roberto dalla provincia di Caserta, ciao Pino, un abbraccio, mi raccomando, continua col tuo cane, caro. Che cane è? Pastore tedesco, chi è? Sì, certo. Vabbè, abbassato, dai, Roberto, provincia di Caserta, vai. Salve, no, sulla questione Rom. Sì, dimmi. Il paese abito. È stato entro 15 giorni deve sgomberare il campo. Sì. Ma dove? Dov'è? A Capua. Campi Rom pure a Capua, con tutti i problemi che hanno pure il campo Rom. È il minor problema quello. Ma non so se vi ricordate, l'anno scorso andò anche Luca Bete di Striscia Notizie all'interno di questo campo Rom. Non me lo ricordo, perché che succedeva là? Verificò la situazione igienico-sanitaria pessima, spazzatura ovunque, parte un colpo di pistola per aria. È tutto sul web, è reperibile. Vabbè, allora che vuoi dire? No, niente, che stamattina sono andati, dentro 15 giorni devono sgomberare. Sì. Questa mattina si è presentata una delegazione di questi rom minacciando che non se ne vanno là. Ma chi è che non se ne va? Cioè, i rom minacciano. I rom non se ne vanno, di non andarsene. Cioè, cerchiamo di ridurre tutto, di riassumere la questione. Allora, c'è un paese che si chiama Capua, molto conosciuto anche per i film di Totò e altre cose ancora, no? C'è un campo Rom, c'è un avviso di sgombro, una cosa del genere, giusto Roberto? Anche dei Rom. Se non ho capito, scusa. Campo profughi. Pure i profughi. Profughi e Rom insieme a Capua. Esatto. Vabbè, comunque, stiamo parlando del campo Rom o del campo profughi adesso? È insieme, cioè stanno insieme. Matti a mettere insieme il campo. Vabbè, lo sgombero chi ha fatto l'avviso di sgombero? Il comune. Questi qua se ne vanno o non se ne vanno? Non se ne vogliono andare. Perché? Perché dicono che è casa loro, le solite loro giustificazioni. Vabbè, e che hanno fatto? Hanno minacciato qualcuno? Sì, hanno minacciato qualcuno, sì. E in che modo hanno minacciato? Ci hai chiamato per raccontarci questa roba? Sì. Vabbè, Roberto, registriamo, indagheremo, ciao. Luciani, sei un caccasotto! La Zanzara. Ogni tanto ritornano, Tipi da Zanzara. Tipi da Zanzara. Paolo, volevo dire Paolo, un piccolo cervello è nato con la sindrome comunista, che è un insieme di patologie, minoranza mentale, ignoranza, deficienza, è malato di mente secondo te? È malato di mente, è un comunista, perciò è nato comunista. Comunista si nasce, mica si diventa, perché uno non è mica così deficiente che da sano diventa comunista, È una patologia. Uno nasce comunista, come è una malattia, è una sindrome. menù degli invasori, sì, di quei coglionazzi che arrivano, senti, qui per devastare l'Italia, per devastare noi italiani e per far morire di fame i nostri anziani. Beh, per togliere il futuro ai nostri giovani, sì, e io stuprare le nostre tutte, donne, e, violentare i nostri maschi. E io vorrei con tutto il cuore che a parte una bella, cioè, io godo quando le navi affondano. Beh, io godo, ecco, quando le navi imbecille affondano. Tu godi quando le navi affondano. Godo imbecille. Quando le navi affondano, io godo. Siccome... per me sono sempre troppo pochi. Probabilmente tu godi adesso, non godi più col sesso e godi vedendo le barche di Mirko. No, guarda, se vogliamo fare una gara vedrai che godo più io di te. Comunque, pensa che spettacolo agghiacciante. Stammi a sentire. Sì, pensa a te. È un'altra goduria. Come, ma scusa, tu muori, cioè godi se vedi morire i bambini immigrati che arrivano. Ma senti un po'. Ma questo hai detto, se affondano i barconi, sì, godi. Sì. Ma stammi a sentire. Cioè, se un bambino muore affondando, aspetta, tu godi. Ma ti godi. Ti pare normale che in una barca con 20 adulti muoiono 7 bambini? Ma quelli non cosa li hanno mica buttati giù, ma li hanno affogati. Ma chi è sto genio? Ma chi li ha? Ma come li hanno? Vabbè, ma non li è mica detto come. Quelli che sono sulla barca. Ti posso dire che finché c'è un bambino, Loris da Vicenza, io lui ti dico, non affogherà. Affogherò io, ma il bambino no. 20 adulti in una barca e muoiono 7 bambini, quei 7 bambini sono stati affogati. Comunque tu godi. Tutti, comunque tu godi. Tu godi. La sentenza molto, di molto. Godi quando. Godi quando il godimento, ma non è un reato il godimento, è una ma bestia. Ma io che ne so, io guarda, non ho nessuna paura neanche che se mi vengono a prendere, cioè, io ma sono non vengono libera, neanche, questo veneta, è dramma, non purtroppo. Sono mica italiana, sai? Cioè, non riconosci la polizia? No, italiana, non riconosci? Non me ne frega un cazzo. Cioè, no, non le riconosco, no. Ho depositato i municipi e io sono veneta. Cosa hai fatto? Non che me depositato? Ne frega niente. Che hai depositato? Cosa ha depositato il municipio? Sì, la mia nazionalità. Un atto di infermità mentale ha depositato il municipio. Ma la nazionalità, signora mia, lei è una signora totalmente disturbata. Mi dia retta. Perché io, diciamo, non... Tipi da Zanzara. Un momento, mi segnalano, questa era Loris da Vicenza che è stata segnalata da molti, molti mi dicono denunciatela, una che dice godo se affondano i barconi, adesso Parenzo non esagerare, il godimento non è un reato. È una signora pazza. Vabbè, che ma dice il godimento non è un razziste, reato, dai. Schifose. Ma ho capito, ma il godimento non è un reato, se uno gode perché affondano i barconi sono cazzi. Dopodiché, la cosa che mi sconvolge, oltre questa ormai uno purtroppo ci fa il carlo, ma che questa qui si vanta di aver depositato in comune un atto in cui dice questa che non è cittadina italiana. Sì, ma basterebbe questo qui, oltre tutto il resto, per semplicemente sottoporla a un trattamento sanitario obbligatorio. Ci dici il sindaco del suo comune. Ma questo è però buono, perché non facciamo una telefonatina un giorno al sindaco del comune di Loris? Un TSO per la signora immediato. Loris Darkais. No, quello è Flores. Quello è Flores. Mi segnalano che giù, tra le persone che hanno fatto questo sitino, non so se c'è ancora in corso. C'è una gentile signorina quale che appartiene, umanità si propone no, sotto. Che appartiene al movimento Estinzione Umana Volontaria. Cosa vuol dire? Ma tutti qua, signor Cruciani, ma perché tutti qua? Perché nella radio del signor Boccia? Nella radio del signor Boccia devono dire detto? Questi. Chi è Boccia? È il presidente nostro. No, ma hai scoperto oggi una cosa. Ripetila un attimo, che è una notizia drammatica quella che hai detto. Sì, no, che bisogna rimettersi un attimo in linea perché il signor Boccia è vegano. Ma no, questa non. Come fai a sapere questa cosa? Ma che male, ragazzo mio. Io ma sono vegano dalla nascita. Come io fai? Ho mangiato sempre solo erbette mangio io. Ma non è, hai solo detto che mangiavi conigli? Solo erbette, mai mangiato conigli. No, dai, non è possibile. E per te si mette male, amico mio, perché se i nuovi capitani. Ma questa notizia non è confermata. Se i nuovi capitani di questa straordinaria azienda chiamasi Confindustria. Non è un'azienda, è un'associazione. Di questa straordinaria associazione che raggruppa aziende straordinarie che danno ricchezza al paese. Ma se il capo testé eletto alla guida di questa grande azienda, possiamo dire baracca, nave, il nocchiero di questa nave è vegano, sì. Per te, amico mio, sono cavoletti di Bruxelles amarissimi. Io non ho notizia sei che fuori tu linea, è un fuori, insider, un tuo insider, fuori linea, un tuo insider. Me l'hanno detto. Ragazzi, Movimento Estinzione Umana Volontaria, no, c'è una signorina sotto tra le partecipanti a questo blitz, tanto per far capire ai soliti intellettualoidi che parlano a bambera, Movimento Estinzione Umana Volontaria. planetaria. Cioè, praticamente vuole l'estinzione. Inizi da se stesso. Vuole l'estinzione del genere umano. Attenzione, solo... non è una cosa peregrina quella che hai detto, non è una follia. No, perché mi pare di poter. Mi pare di capire che questa vuole chiudersi la figa. Cioè, vuole chiudersi. Beh, adesso, sì. Però, alle 20... Vuole chiudere. Ma ragazzi, ma. Alle 20:18. Non col dico ministro io. Guidi, che pare si sia appena, per fortuna, io dico anche in modo asettico. Sì, siamo in modo contenti giornalisticamente di questa cosa. Asettico e senza dar giudizi. Per fortuna si è dimessa. Per fortuna si è dimessa. Io parlo di chiusura. Però su questo faccio giornalismo anglosassone che non fa mai commenti. Lei ci propone il tema della chiusura di delle tube. Delle tube. Ma... No, però la cosa fondamentale è questa. Allora, questa qua, siccome non si vuole riprodurre, vabbè, allora ha deciso di chiudere. Di chiudere tutto. Baracca Burattini. La sua azienda. E vorrebbe lei. Può fare e vorrebbe l'estinzione del genere umano. Vabbè, ho capito. Con gli animali che pascolano indisturbati in tutta. Ma inizi da se stessa, non c'è nessuno che. Nessuno la fermerà. Va benissimo. Ma dov'è? Al telefono? Aspetta, no, magari. Cruciani, l'altra sera facevo l'amore col mio ragazzo mentre ascoltavo La Zanzara. Beh, quando hai mandato il traffico, mi si è abbassata tutta la libidine. Traffico. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta La Zanzara. Cruciani, sono stato una settimana senza la carne. Ho sofferto come una bestia, ma stanotte non ho resistito. Mi agitavo, mi rigiravo nel letto e sognavo polli, conigli sgozzati, sangue, vitelli al mattatoio. Mi sono alzato, avevo un coniglio intero, me lo sono cucinato alle 5 di mattina e l'ho mangiato tutto e ho goduto come un pazzo. C'è una notizia che mi ha veramente fatto girare i coglioni, Parenzo. Per carità, di ladri sbruffoni esistono anche. È pieno il mondo. Esistono anche ladri sbruffoni italiani, italioti, padani, non padani, veneti, lombardi, napoletani, eccetera, eccetera. Però, una ladra rom a Macerata, arrestata per furto aggravato, esce subito dal carcere. Vabbè, questo non discuto, per me è una follia, furto aggravato, praticamente colpevole di furto aggravato, esce subito dal carcere. Le norme italiane prevedono questo. Cambiamole e le cambieremo. Beh, adesso sto parlando come un leader politico. Cambiamole e le cambieremo. Cambieremo. Vabbè, lasciamo perdere. Ma cosa che... Per un attimo mi sono... Anche Pinochet. Cambiamole neanche e le cambieremo. Neanche Castro. All'uscita della questura, questa signora... Si è messa a sorridere, praticamente a pigliarci per il culo in mezzo a due carabinieri, mostrando il segno della vittoria. Anche? Sì. Come Churchill. La ladra rom esce subito e ci prende in giro. Titolo veramente dei signori del Il Giornale. Ah, stavo per chiederti, no, questo è libero, no, secondo però è vero, me. Però il giornale è libero. È libero. Però scusa, è vera, la foto è vera, c'è questa signora rom che col segno di vittoria esce tra due carabinieri. Sì, cioè, normale, è avvenuto, viene qui a Milano... Come abbiamo documentato, la giunta Pisapia fa normalmente questi gesti. Questa è Sallusti, che c'è? Scarcera Rom, la giunta Pisapia. Potere di scarcerare i Rom e si va a prendere in giro. Normale. Avviene ma veramente sempre. È successa a Macerata. Beh, governa a sinistra, è evidente. Ma non lo so, sì, può dare. Sì, è Partito Democratico a Macerata. Allora, sorriso e simbolo della vittoria, mimato con le dita. Questa è l'immagine della nomade di origini bosniache che dopo aver rubato in un appartamento è stata subito rilasciata dal giudice. E naturalmente la cosa fa indignare. Notizia fa, di dico, libero, no? Questa? Beh, notizia di libero, sì. Qual è il problema? Tutti i temi che ci sono, notizie in prima pagina. I singoli reati dei rom vengono messi come. Vengono dire, notizia, diventano. Notizia di mezza pagina. Rilevante. Però la gente è incazzata. Cioè, se una rom ruba in un appartamento, non c'è viene dubbio. Subito scarcerata e poi sorridente con i denti tutti d'oro. Solo no? Libero potrebbe fare una rubrica proprio apposta, no? Con i reati dei rom. E ogni giorno fare un bollettino. Con i denti tutti sdentata così, con i denti tutti d'oro così. Segno della vittoria, hai visto? Sì. Tanti in galera non finisco. Io sto in Italia e faccio il cazzo che mi pare, perché questo, cioè, il sottinteso è questa roba qua. Oh, mi dicono che alle 20:24 non se ne sono andati, eh? Sì, ma la notizia triste è che hanno rilasciato Mercù. Cioè, la notizia drammatica è che anziché tenerselo gli animalisti, ce lo hanno riproposto. Questo è il punto vero. Andro Mercù è di nuovo alla Zanzara. Enrico da Torino, vai. Eccoci qua. Allora, senti, se ho capito bene, mi devi dare conferma, sì. Tu dici che sei a favore della caccia, giusto? Ma proprio a spada tratta, ovviamente caccia regolata, caccia... Io sono a favore anche della caccia, della grande caccia in Africa, per esempio. Ecco, quella no. Perfetto, proprio... Assolutamente, regolata, naturalmente molto regolata come adesso. Sono i bracconieri. No, i bracconieri, essere bracconieri è un reato. In Africa fanno la grande caccia organizzata in Africa, organizzata, io sono assolutamente favorevole, assolutamente. Quindi tu pagheresti? No, non la faccio perché non vado a caccia. Che cazzo vuol dire? Scusa, se uno è a favore deve per forza fare. Sono a favore della droga no, legalizzata. Io non parteciperei, no, io invece ambirei a partecipare alla caccia alla volpe, ad esempio, in Inghilterra. Ecco, quella è una tradizione. Allora, cosa che... No, senza sparare, ma stando a cavallo e a seguire. Cioè, sei i cacciatori... a favore della caccia alla volpe? Beh, quella è una tradizione, ma stai ma scherzando? Che c'è? Non è che tutte le tradizioni vanno bene. Beh, quella è una tradizione. Però sei a favore della caccia alla volpe? Beh, in Inghilterra, certamente. Con i lord, io sono a favore. Ma comunque, Enrico, che vuoi? In Inghilterra, con i lord, propongo a te. Perché Parenzo è più serafico, tu invece sei più scattante, più veloce. Visto beh, guarda, non ti credere, caccia... anche lui ogni tanto... No, quando... ma lui è più... Sì, più pigro, è vero, più lento. Più pigro, bravo. Sì, è vero, è vero, è vero. Poi tu sei anche ludico. Propongo a te la caccia però come preda a te. Sì. Che è un gioco, ci sono stati anche dei film su sì, questo tema, sì. Caccia all'uomo, no? Quindi tu saresti. Ma che cazzo c'entra, scusa, Enrico? No, ma è no, un gioco. È un gioco per divertirsi, così? Un gioco? Sì, per divertirsi. Per divertirsi. Magari tu hai visto che sei amante delle donne, magari troviamo delle amazzoni vegane. Sì. Ne proviamo quante vuoi. Ma scusa, perché, no, dovrei farmi, finale... perché dovrei farmi cacciare dalle amazzoni vegane? Scusa, spiegami. Ma perché se sei a fuori della caccia saresti disponibilissimo. No, no, che non ta... Aspetta, scusa, c'è stata una interferenza, dimmi. Cioè, non ho capito. Enrico, adesso siamo. Se vogliamo scherzare, scherziamo, per carità. Perché dovrei farmi cacciare da qualcuno? Questa caccia all'uomo non è ancora legale, come dici tu, è una cosa un po' futurista da film televisivi. Ma no, no, io non voglio la caccia all'uomo, voglio la caccia all'animale, perché è una cosa un po' diversa la caccia animale rispetto alla caccia all'uomo. Cioè, è una cosa un po' diversa. Fondazione, molti vorrebbero. Vabbè, non si sente niente. Marco da Udine, vai. Ciao, ma ciao Chiusani, ciao dimmi, Parenzo. Dimmi. Allora, mio padre è un cacciatore, sì. C'ha 11 volumi dell'enciclopedia della caccia e ne sono fiero. Mm. Ma volevo sapere una cosa io. Come sì. Hai fatto, dicendo cose normali, tipo io mangio la carne, sì. A metterti contro tante persone? Caro Marco, la spiegazione è molto semplice, perché io non mi limito a dire questo, ma non sono ipocrita e faccio delle controcampagne di informazione. Sono a favore della caccia. Sono a favore dell'uccisione degli animali, sostengo la sostanziale differenza tra essere umano ed animale, dico delle cose, sì, come sì. Dici te, talmente d'accordo. Ovvie secondo me, talmente ovvie che non dovrebbero stupire nessuno, però le dico in faccia, le dico dai microfoni di una radio molto ascoltata, di una trasmissione, bontà loro, molto ascoltata, per cui il problema è questo qua, per cui faccio uscire fuori dai gangheri molte persone. Però salverai la capretta. No, grazie non lo so. All'intervento di tua figlia salverai quella adorabile. Va bene Marco, capretta. Che volevi dire poi? Volevo chiederti se puoi snocciolare qualche come si può dire, qualche statistica. Quanti sono questi nazi vegani in circolo? Amico mio, i nazi vegani, mangiare una bistecca da qualche parte. I nazi vegani sono una categoria molto elastica. Cioè, ci sono quelli che sostengono i nazi vegani, i fiancheggiatori, quelli che durante il terrorismo venivano chiamati fiancheggiatori, che sono tutti questi intellettuali, quelli che vanno nelle trasmissioni, la signora Spack, la signora Seno ieri sera, altre persone ancora, i quali sostengono che non c'è nessuna differenza tra lei, Marco da Udine, e un coniglio, e un piccione. Cioè, avete lo stesso valore, lo stesso valore. Questi signori, ovviamente, non attaccherebbero nessuno, non farebbero del male a nessuno, teoricamente. E però, a fianco a loro, ci sono quelli che invece ti mettono le mani addosso. Ci sono quelli che ti spaccherebbero la faccia. L'abbiamo visto in faccia io e Parenzo stasera, quando siamo scesi giù. Se non ci fosse stata la polizia, diciamo la verità, Parenzo poi ha potuto vedere con i suoi occhi, se non ci fosse stata la polizia, saremmo stati, io in particolare, sarei stato qualche picchiato. Qualche spintone, sberla e minaccia, sicuramente. Dai. La minaccia c'è stata davanti alla polizia, questo non c'è dubbio. Fermi tutti. Ma Parenzo, come fa ad avere una moglie? La Zanzara. Se qualcuno tocca Cruciani e c'ho un orto con 10 polli, faccio una rappresaglia e tiro il collo a tutti. Allora ragazzi, è uscito nei giorni scorsi uno studio che rende la mia vita, non quella dell'ascoltatore di Vicenza, particolarmente drammatica, Parenzo. Pare che il cunnilingus, cioè il sesso orale, praticato dagli uomini in particolare, provochi un aumento, io non ci credo però a questi studi, francamente, un aumento tipo dell'oltre il 30% di possibilità di prendere un cancro. Cioè uno studio drammatico, uno studio drammatico. Non posso commentare. Non puoi commentare perché non puoi nemmeno dire se questa pratica ti piace o no. Non ho letto, non posso. Da contratto con la rete. Ti è proibito di parlare delle tue pratiche sessuali. Esatto, proprio c'è una clausola Barisoni nel contratto. Cioè, sì. Mi è impedito di parlare delle mie pratiche sessuali. Beh, però della circoncisione abbiamo parlato a lungo. Però quella non è una pratica sessuale, quella è una pratica religiosa ed è considerata, sì. E quindi è ammessa. Mentre la notizia che a me sconvolge di più è questa roba, che non si, bisogna definire la roba, di questa cosiddetta lista Noi con Salvini. Beh, come cosiddetta? È un movimento importante. Già, diceva Noi con Salvini. Ma facci tu con Salvini. Noi. Io un cavoletto, io non vado con Salvini, ad esempio. Ho un cazzo, quindi devi non mettere noi. Metti tu con Salvini. Io non vado. Noi con Salvini. Prima questione, vabbè, che vabbè. Che non avevo mai notato, però noto oggi. Noi. Noi un corno. Ma non è vero, lo sai che esiste. Secondo. Domenica 3 aprile 2016, ore 10. Uno dice, ma la domenica esco con la mia famiglia. No. Fanno a Palermo, a Sferracavallo, che è l'hotel Bellevue, padroni di fare una manifestazione. Padroni di fare qualunque cosa. Una manifestazione che c'è scritto di questo Noi con Salvini. Palermo non è eccitante e sicura, punto esclamativo. Conferenza sul tema della sicurezza. Eccitante. Ma che roba è? Ma è un congresso di YouPorn o di partito? È come il traffico. Ma no, problema di Palermo. Palermo non è eccitante e sicura. Conferenza sul tema della sicurezza. Intervengono una serie di personaggi, vabbè, la sua sbaglia. Tu dici, come dire, il problema di Palermo è che non è eccitante. È il traffico. Il problema di Palermo è il traffico. Davide, provincia di Roma, vai Davide. Sì, pronto? Vai, dimmi caro, dimmi. Sì, allora guarda, andiamo subito. Ragazzi, però io voglio fare una cosa agli amici d'assisti, poi vengo subito da te, Davide. Allora, nei giorni scorsi, adesso poi travolti da questa cosa dei nazi vegani, abbiamo perso tantissimi argomenti, che in realtà dovremmo assolutamente riproporre. Per esempio, vorrei fare una grande battaglia perché Giovanni Trapattoni resti alla guida. No, alla guida no, perché non è la guida di un cazzo, come commentatore, una seconda voce Rai del calcio. Ragazzi, l'unico motivo per cui uno può continuare a vedere le telecronache sulle reti Rai è che c'è Giovanni della Nazionale, che è Giovanni Trapattoni. Diciamo la verità, da un punto di vista tecnico, sì, di modernità, tutti gli altri fanno un culo così alla Rai. Il problema è che Trapattoni hanno una pepita d'oro in mano. C'è un signore. Il problema è il linguaggio del trap, che non è convenzionale rispetto alla missione del servizio pubblico. Scusa, uno che dice porco zio, che dice Rai, dai, forza, eccetera, eccetera, ma è un fenomeno, ma va tenuto solo per quello. Ma quello è il servizio pubblico. Uno che dice Campo dall'Orto. Che dice dai, passa lì, no, cazzo. Ma ho capito, ma Campo dall'Orto non può chiedere il canone. Il canone in bolletta. Trapattoni, siamo con te. Pare che la Rai ti voglia cacciare. Siamo con te, trap. Ma stiamo scherzando, l'unico motivo al mondo, l'unica ragione per cui si può vedere una telecronaca alla Rai. La Rai deve decidere, fa servizio pubblico, vuole il canone in bolletta. Ma quello è servizio pubblico. Ah, il Trapattoni è servizio pubblico. Che bofonchi, il Trapattoni Piero Angela è servizio pubblico. Ma dai, su. No, Trapattoni, Piero Angela è servizio pubblico. Dai, su, dai. Allora, però, voglio dirvi una cosa, amici tassisti, magari recupereremo domani. No, manda i matti sta roba di Noi con Salvini. Ma veramente, ma uno può chiamare Noi con Salvini? Ma che c'è? Noi quelli che ci stanno, non noi in generale. No, questa idea è Noi con Salvini. Noi un cazzo. Un corno, no? Un corno fritto. Vabbè, tu Davide, con Salvini. Davide, dimmi. Allora, la mia storia può sembrare paradossale. Anno 2005, macelleria avviata in provincia di Roma, incasso medio 10.000-14.000 euro al mese. Beh, 10-14 lordi o netti? Lordi, certo. Lordi. Beh, non è male, però. No, per carità, 10-14, beh, ci sono delle macellerie che sono come delle gioiellerie, cioè 10-14 lordi al mese. Di carne, vabbè, si tiravano fuori quei netti 3.000 euro, una cosa onesta. Quanto chili di carne? Ma saranno cazzi suoi, adesso non ci addentriamo in queste cose. Sì. Quanti chili di carne? Vabbè. Chi se ne frega? Il problema non è quello. Parente. Che è successo, Davide? Caro Davide, che è successo? Mia moglie diventa vegana. No, ma dai, allora mi dà un ultimatum. Ho retto per 3 anni, mi ha detto o chiudi la macelleria o ci lasciamo. No, io, ma dai, dai. E tu che hai fatto? Tu che hai fatto? Ho fatto? Io ho chiuso la macelleria. Ma sei uno stronzo, sei? Ma sei pazzo totale? Ma sei Oggi sono uno stronzo, abbiamo convertito l'attività, non è andata bene. Dopo sei anni, sei diventato un fruttivendolo. Una mattina mi sono svegliato, sì, mentre che è uscita, ho cambiato le serrature alla casa, sì, ho stampato con il computer sul foglio A4 la foto di una bistecca e ho scritto: in questa casa non sono graditi i vegani. Casa mia, di cioè mia l'hai lasciata, cioè, l'hai mandata a quel paese? Sì, non è più entrata. No, il massimo sarebbe che la trovavi a scopare con un amico tuo super carnivoro. No, ma non è quello. Dopo due anni, perché stava senza soldi, si è messa con un ristoratore romano. Vabbè, amico mio, però mi sa che il problema non eri tu che eri carnivoro, è che questa non te voleva più, certo, cioè voleva scopare con altri, dai, su. Mi permetti? No, scusa, però Davide, io ci voglio credere a questa storia, per carità. Cioè, tu mi stai dicendo che hai perso moglie, anzi, prima l'attività e poi la moglie, che ti ha imposto di lasciare la macelleria in quanto vegana? Giuseppe, io l'amavo, per me era più importante lei. Vabbè, ma amico mio, ma come si fa? Ma scusa, ma fatti fatti delle domande. Tesoro mio, sì, cioè una vegana che ti dice chiudi la macelleria, ma vai a fare in culo, sputa sì, in faccia. Sì, ma tre anni no? ho retto tre anni, abbiamo due figli, capisci, voglio dire. Che lo so, ma è un dramma, per carità, però pure i figli tu, come dai, si chiamano? Filetto e sottocoscia? I due figli? No, vabbè, non fare lo stronzo, chiamano, dai, non infierire. No, poi voglio dire, se mi permetti sempre, sì, due parole a Parenzo. Eccoci qua. No, Parenzo, si chiamano Manuele e Gianni. Ah, ok, benissimo. Ma adesso ti pigli per il culo pure i figli, non me l'aspettavo da te. Posso dire due parole a Parenzo? Sì, dillo. Allora, Parenzo, guarda, io, Cruciani è bravissimo a portare avanti questa trasmissione, però io desidero precisare una cosa, che questa trasmissione senza di te non sarebbe la trasmissione che è. Vabbè, questo lo sappiamo, dai, è giusto che tu lo dica. Noi con Davide. Vabbè. I migliori complimenti. Va bene, grazie. Ma lo dico sinceramente. Mi imbarazzi, se dici così mi imbarazzi, guarda. No, dammi però, abbi pazienza, dammi altri 30 secondi. Sì. Però guarda, io comunque sia... Se... Parla meglio, avvicinati di più al microfono, a quello che c'hai. Come sì, allora, ecco, guarda... Bene. Davide. Adesso non essere così remissivo. Io credo che tu anche probabilmente sei un portatore di una o più lesioni congenite, traumatiche, ischemiche, infettive, non so come l'hai presa, a livello cerebrale. Sì. E quindi con conseguenti compromissioni in queste attività nel momento in cui stai in diretta. Perché in diretta sei tutta un'altra persona. Vabbè. Che vuoi dire, capisci, con questo? Non ho capito. Perché Davide dice un mare di cazzate, di rombe e tutto il resto. Sì. Sta proprio fuori. O ricopre un personaggio, sta proprio fuori. Quindi prima ti ha fatto un raggio e poi ti ha detto che sei cerebro leso. Io dico quello che penso. Sì. Vabbè, Davide, ti ringrazio. Un abbraccio. Ciao. Allora, chiudiamo in bellezza, caro Parenzo, con un personaggio che ha quasi dell'incredibile, che è un ex sacerdote, lo chiameremo Don Luca, se non sbaglio. Ci sei? Sì, pronto? Eccoci qua. Come stai? Bene. Allora, dimmi una cosa. Per quanto tempo sei stato prete? 8 anni e mezzo circa. No, aspetta, com'è che io sono qua? Ah, sì, Andrea ti chiami. Scusami, Andrea. Scusami. Infatti. Allora, Andrea, ex sacerdote. Religioso ero. Sì, quindi non ero neanche... Per quanto tempo sei stato prete? 8 anni e mezzo. Sì, 8 anni e mezzo. Più altri, però ho studiato prima a Roma, quindi ho fatto circa 10 anni in tutto, seminario. Di studi. Sì. Ma quando è che non sei più prete? Sono prete da 3 anni. E che fai da 3 anni a questa parte? Si cerca i lavori che non ci sono, perché ormai i lavori non ce ne sono. Cioè prima avevi uno stipendio, adesso? No, non avevo stipendio perché ero religioso, quindi non avevo stipendio. E come campavi prima, scusa? Gli davano da dormire, da mangiare, insomma. Sì, ma si viveva in comunità e quindi tutto ciò che si aveva lo dava la comunità. Senti, ma adesso come fai? Cioè sei in mezzo a una strada, cioè come fai per campare? No, adesso vado a fare i lavori call center, così quello che passa il convento, come si dice. però con tutti i tempi hai problemi? Un pochettino sì, infatti un po' sono arrabbiato anche un po' con il mondo chiesa perché non ho aiutato per niente. Vabbè, ho capito, amico mio, te ne sei andato a un certo punto. Tu dici la chiesa avrebbe dovuto darmi una stanza. Però, ci sono alcuni miei colleghi che sono usciti anche prima di diventare preti e sono stati aiutati a lavorare in tutte le varie... Senti, a proposito, tu che hai una conoscenza della materia, ma quanti preti omosessuali ci sono, gay, e soprattutto non solo omosessuali, ma che fanno sesso? Ah, perché lui cioè, è omosessuale? Che... No, lui no, non credo sia. Tu sei etero, no? No, io sono eterissimo. Eterissimo, ma adesso, come detto, quando non sei più prete hai aumentato la tua attività sessuale oppure scopai pure prima quando c'avevi la tonaca? No, io no, quando ero a tonaca ero ligio al dovere e a quello che... Vabbè, a noi ci viene a raccontare, amico mio, tu scopai pure prima, no, secondo no, me. No, no, assolutamente. Ma figurati, facevi sesso con no, un io fa- no, io ho fatto anche missionario in Africa per 4 anni e mezzo, appunto. Quindi non è che ho fatto... Quindi non sono mai andato con donne e quindi... E vabbè, ma intorno a te, sì. Quanti preti fanno sesso? Quanti preti sono omosessuali? Il 60% dei preti è così. Il 60% dei preti è omosessuale? Beh, all'epoca entravano in seminario gente per nascondersi dalla loro omosessualità, ovviamente. Dunque, il 60% è omosessuale e vabbè, d'accordo, ma è gente che fa sesso regolarmente, che cerca avventure sessuali oppure no? Ci sono. Oppure ci reprime sono. La sua no, i suoi istinti. Ma ci sono alcuni che reprimono gli istinti e altri invece che lo fanno tranquillamente. Ho capito, ma quante persone che tu hai conosciuto? Guarda, io in seminario ho vissuto con persone che erano omosessuali e facevano le loro cose fra di loro, quindi... Ah sì, cioè trombavano tra di loro, cioè facevano sesso tra di loro. Sì, sì, ma poi la cosa strana è che comunque non tutti i sacerdoti sono tutti proprio omosessuali oppure fanno sesso, insomma, sono persone anche che fanno il loro... Allora, questo lo sappiamo, però tu stai dicendo che il 60%, 60% sì. Se ne fotte della... Ma ultimamente sta venendo fuori un sacco di problematiche, no? Le pedofilie... Sì, lo sappiamo. E preti pedofili ne hai conosciuti? No, però facevano parte un po' della mia congregazione, ce n'erano tanti, ci sono anche... L'hai conosciuto o no? Conosciuti, scusi. Sì, alcuni sì. Cioè, hai conosciuto dei preti che dopo si è saputo che erano pedofili? Sì, sì. Alcuni non si pensa neanche, cioè quando li conosci così che stanno con te... Ma li hai denunciati? Io non è che posso denunciare questa cosa perché io non ho subito niente e non ho visto nulla. Però sapevi che... Cioè, c'erano delle voci che eccetera? No, non c'erano delle voci, l'ho saputo quando hanno ricevuto... Quando le cose sono venute fuori. Sì, sì, che uno non pensa a questa persona che sia così. Senti una cosa, ma lui è un tipo particolare perché sostiene a livello spirituale la signora Maurizia Paradiso. Ma chi, il prete? Sì, prete. Sì. Ma che vuol dire che sostiene a livello spirituale la signora Maurizia Paradiso? Allora, io sostengo la signora Maurizia perché l'ho conosciuta e oggi lei è una persona un po' particolare e aveva bisogno di un aiuto. L'aiuto spirituale a Maurizia Paradiso. Sì, si dice così, insomma. Allora, sono un amico e quindi in certi casi lei mi dice le sue cose, me le dice e io li cerco un po' di aiutare. Scusa, ma ha bisogno di un aiuto spirituale la signora Paradiso? Ma si dice così, è un aiuto di appoggio, di essere amico, di soprattutto adesso che ha avuto una brutta avventura ultimamente, quindi... Del conforto spirituale. Del conforto spirituale. Sì, un amico, dato che bene o male, quando uno ha qualche problema, tutti si allontanano dalla persona che ha problemi, se uno invece è sempre gioioso e felice... Ma quanto trombi adesso? Beh, adesso mi capita... Vai a puttane o no? Vai a prostitute o no? Anche. No, quello no. Non ci vai adesso? Non vado a prostitute. Ma qualcuno mi ha detto che vai in Germania come un matto ogni tanto. Germania, Svizzera. Io vado per fare un po' di gozzovino, quello che non ho fatto prima. Cioè, adesso mi diverto un po', ma non è che... Va bene, ciao caro. Ciao Andrea, ciao. Grazie ciao. A voi. Ciao, ciao. Allora, ve la butto lì, amici tassisti, poi ne parleremo domani. C'è una signora che io tra l'altro conosco, che si chiama Maria Laura Rodotà. Come? Che è giornalista del Corriere della Sera, nonché figlia... Del grande Rodotà. Figlia di... Del professor Stefano Rodotà. Uno dei più grandi intellettuali, intelligenza di sinistra. La signora Maria Laura Rodotà scrive per il Corriere della Sera e nei giorni scorsi è incazzata come una bestia. Abbiamo per alcune... preso peraltro lo stesso premio, se ti ricordi. Non interessa, sì, niente, sì, nessuno, vabbè, non interessa niente a nessuno. Signor Mariano Dota, cosa ha scritto? Ha scritto: di sera la metà dei tassisti romani, amici tassisti, sentite bene questa cosa, di sera la metà dei tassisti romani è strafatta di coca. Forse avrà avuto extra, sì, non lo so, però lascia bene, ha avuto dei contrattempi con i tassisti. La metà dei tassisti romani è strafatta di coca. Poi, sempre su Facebook, ha scritto: comunque, viaggiare con tassisti pieni di coca non è una generalizzazione, è la norma. Dunque, non so se di sera stavolta oppure durante il giorno, ma qui non è specificato. Viaggiare con tassisti pieni di coca non è una generalizzazione, è la norma. Cioè, a Roma o non so dove, in questo caso non è specificato, viaggiare con i tassisti, cioè i tassisti secondo lei sono pieni di cocaina. Amici tassisti, cosa avete da dire? La signora Maria Laura Rodotà. Alberto dalla provincia di Cuneo, vai. Buonasera Paenzo, buonasera Crociani. Dimmi, dimmi. Allora, desideravo solo far presente. Sì, veloce però, eh. Esistono centinaia, forse migliaia di pubblicazioni scientifiche che dimostrano che i vegetali sono esseri viventi, senzienti, perché avvertono la luce, avvertono il... Ma tu dici vegetali? Il cambiamento della durata del giorno. Sì, i vegetali. E ci sono anche degli studi che affermano che i vegetali, le piante che teniamo in casa avvertono. Sì, ma tu lo stai dicendo seriamente? No, è vero, c'è seriamente o per, piante, o per prendere per il culo questi qua? Certo, per prendere per il culo i vegani e si rendano conto che comunque loro si nutrono di esseri viventi senzienti. Per cui non andrei nemmeno a fare un discorso di morale o di scontro. Va bene, Alberto, Alberto, devo chiudere, ciao. Senti, ieri credo che fosse l'anniversario della morte di Califano, eh? 3 anni dalla morte, no, di Califano. Stasera ci sono una serie di amici a Verona, che ricordano Califano alla grande, tra cui il conte Galè e altri ancora, che saluto. Viva il califfo! E anche Fabio. Sì, non il califfo al Baghdadi. Viva il califfo! Viva il califfo! Viva il califfo! Bassi vegani, ciao! Crociani, ma va tuca! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh? Radio 24. La passione si sente.